Tuo Parenzo, sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Prego per te, ti prego, se c'è un'occasione che ti fa meditare, che ti fa restare solo per 5 minuti e pregare, dici: ma Signore, veramente esisti tu? Fallo per 5 minuti solo, vedi se il Signore ti parla. Io cerco di vedere se il Signore mi parla, ma non trovo mai nessuno, caro Parenzo. Cioè, ogni tanto bussano, toc toc toc, ma c'è il Signore? Non risponde nessuno. Sono delle persone che vivono delle possessioni demoniache talmente forti, addirittura dove il corpo fuma o ci sono manifestazioni molto, molto, molto, molto evidenti della presenza del maligno. Però il mio corpo non fuma, capito Parenzo? Come la mettiamo qui? Ma... cioè il mio corpo non fuma, cioè il maligno, non lo avverto il maligno. Come mai non avverto il maligno? Ma perché tu sei il maligno? No, no, non puoi dire tu così, dai. Tu sei no, il maligno. Non puoi dire che sono il maligno, dai, su. Comunque, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e ciaone a tutti, eh. Grande ciaone. Allora, ma che male ha fatto il deputato del Partito Democratico, sì. Carbone, come si chiama di nome? Scusa, come Ernesto, si chiama? Ernesto Carbone. Non far finta di non conoscere, è un amico mio, lo conosci anche sì, tu, benissimo. Sì, un tizio che suona ogni tanto al piano bar, sì, e che sembra una specie di De Michelis magro, ancora magro. Questo. Sì, sì. Cioè, il suo futuro potrebbe essere questo, quello di essere il De Michelis di Renzi, no? Il De Michelis. Signor Ernesto Carbone. Ma fai un grande complimento perché Michelis no, è un ma grande per carità. Allora, Ernesto Carbone, che cosa ha fatto? Perché ha suscitato questo scandalo? Sì. Naturalmente non tra i camionisti, non tra la gente normale ma che lavora. Ma perché sei così razzista? Tra gli addetti ai lavori. Ma perché il camionista non vota le trivelle, scusa? Ma che gliene frega a un amico camionista, un amico tassista, a un amico del popolo, Ti voglio dire una cosa. Giuseppe, sei quello che chiama? Giuseppe. Sì. Ma quello sa, quello si informa, mannaggia lui. Ho capito, però non è che sa, si informa sulle trivelle, però non è che sa che un deputato del Partito Democratico, vabbè, tale Ernesto Carbone, su Twitter, mentre sì, era in corso il voto, a urne aperte sì, prendeva per il culo, lui dice, i promotori del referendum, sì, perché non sarebbe stato raggiunto il quorum. La gente normale non le sa queste cose. Di queste cose discutono solo gli addetti ai lavori solo come te, lavori. Ma sì, certo, vabbè, assolutamente. La gente normale parla di dildi, va bene, continuiamo. La gente normale così parla di dildi, vabbè, sì, vabbè, è molto vabbè, più vabbè, interessata vabbè, ai dildi che al resto, vabbè, non c'è vabbè, dubbio vabbè, su questo, vabbè, non c'è vabbè, dubbio. Va bene. Comunque, tanto per ricapitolare, c'è un deputato del Partito Democratico che non capisco che male abbia fatto. A me non me ne frega niente di Carbone, non sono né amico né nemico mai di Carbone. Ma hai votato tu almeno? No, non ho votato. Oh, la figurati mai. Allora, il signor Carbone cosa ha fatto? Ha detto ciaone, prendendo per il culo questi qua del referendum. Ha fatto benissimo, ma non è che un deputato non può scrivere ciaone, certo. Non è particolarmente, come dire, no? Ma sì, come si può dire, non è politically correct. Esatto, non è politicamente corretto, sarà un po', ma noi siccome piace la trasgressione, è un deputato trasgressivo a suo modo. Sì, e secondo me è anche molto trasgressivo il signor Carbone su un altro settore, diciamo. No, di cosa stai parlando? Secondo me, ho detto secondo Quale? Me, ho detto secondo me. Ma nella vita privata, ma questa è una mia idea, ma eccetera. Perché devi sempre seminare zizzania? Trasporta la sua trasgressione nella vita privata questo ma deputato non è vero. Ma al piano pubblico. Ciaone, bella una cosa. Benissimo. Una cosa bella. Una serissima fedelismo, non è proprio così. Vabbè, con la mia, questo può essere sbagliato. Comunque, è una diffamazione aggravata. Ma comunque, ragazzi, cioè dovete stare. Questo è il punto. Ci dovete stare. Hanno vinto quelli che hanno detto, ragazzi, su queste cose qui a noi non ci va di decidere. Non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. Il bello è che quelli che hanno perso, invece, dicono che hanno vinto. Emiliano, no, beh, senti, fanno ricorsino, fanno anche il ricorsino adesso. Ah sì, ma dai, ma solo in Italia queste cose, dai, su, basta. Avete perso, ragazzi, quelli che volevano i no trib, avete perso, basta, non c'è discussione. A me, ripeto, non me ne frega nulla, ma uno deve accettare la realtà delle cose. Avete perso, no, Emiliano? Noi abbiamo stravinto questo referendum, abbiamo costretto il Presidente del Consiglio, che ha appena purtroppo fatto finta di nulla, a fare una marcia indietro sulle trivellazioni nelle 12 miglia marine. Sì, ho capito, ma non c'era solamente questo. Volevate dare una spallata al governo, amico mio. Il 30% a casa, dai, su, uno ha perso, no? Poi Renzi, secondo me, in maniera assurda, se la prende, cioè nel momento del successo, se la prende con i talk show. Allora, questo qua è una fissazione, devo dire. È una fissazione, una malattia. Cioè, è una malattia. Bravo. I talk show non cambiano nulla, niente. Non spostano, cioè, un voto. Ma non spostano mezzo voto, perché se la deve prendere con i talk show? Come hanno dimostrato 20 anni di berlusconismo, peraltro. Ma perché se la deve prendere con i talk show? Non ha senso, è una sua lotta personale che viene portata sul piano pubblico, no? L'Italia è molto più grande di talk show che costantemente riferiscono il racconto di addetti ai lavori e non si rendono conto che là, fuori dalle loro telecamere, c'è un paese che chiede concretezza, che chiede solidità e che è molto più avanti. Mentana contro Renzi, avanti, sentiamo pure questo. Se la deve smettere di dare la colpa alla televisione e ai talk show. Se non ci fosse la televisione a spiegare le ragioni dell'uno, le ragioni dell'altro e anche le sue ragioni, noi non sapremmo e non potremmo come cittadini decidere cosa fare. Allora, però parliamo di altro, parliamo di immigrazione, dai, col Papa che si fa quasi scafista, diciamo, il Papa che si fa quasi, come no, si può dire? Lo sapevo, immaginavo. Amico mio, ce l'ho qui, il Papa. Il sondaggio di Libero è questo, lotta all'immigrazione, secondo voi Papa Francesco per l'Italia è un ostacolo? Sapete, cioè, il sondaggio di Libero. Il Papa ha portato 12 immigrati siriani musulmani in Vaticano. Ora, esatto, dico, siccome saranno liberi però di girare come vogliono, 12 storie anche in Italia, straordinarie. Allora, tu sai come di rifugiati, sì, profughi, sì, ho capito, c'è gente però che scappava dalla guerra. Benissimo. Capito? Non Papa, gente che verrà a casa a stuprare le nostre donne, il Papa, i nostri figli, eccetera. Il Papa in Vaticano fa quello che vuole, però questi qua poi saranno liberi di girare anche in Italia. Cioè, capito, non è che resteranno nella città del Vaticano. Sono dei criminali. Io non lo so, però lui non lo so, ma non sono mica dei criminali. Lui dice che hanno le carte in regola. Appunto. Beh, comunque, sondaggio di Libero, lotta all'immigrazione. Aspetta, cos'è Libero? Lotta all'immigrazione, secondo voi Papa Francesco per l'Italia è un ostacolo? Secondo te, in sì, quanti hanno risposto fino adesso? Secondo te 90%. 93%. Ma ecco, appunto. Io ogni tanto partecipo ai sondaggi di Libero. Mi piace essere quella piccola minoranza dei sondaggi di Libero. La Santanchè, secondo la Santanchè, il Papa doveva portare 12 pensionati e non 12 siriani in Vaticano, 12 pensionati italiani, caro Parenzo. Ecco, ti leggo, guarda, tanto per farti vedere la credibilità di questo straordinario quotidiano. Il sondaggio di Libero al quale ho partecipato recita così: lei deve fare sesso 10 volte al giorno, secondo voi il fidanzato è un uomo fortunato? Sondaggio di Libero di oggi. Ovviamente ho risposto e l'ho twittato anche, ho scritto: cari amici di Libero, il vostro modo di affrontare il tema delle trivelle? Le grandi inchieste di Libero. Ah, sì, perché c'è questa ragazza, dai, che ragazzi, dice che deve fare sesso, sì, 10 volte al giorno. Tema fondamentale, ovviamente. Tema fondamentale. Sentiamo la Santanchè, dai. Papa fa il Papa, ma a me mi sarebbe piaciuto vedere il Papa che porta 12 pensionati italiani che vivono con meno di 500 euro al mese in Vaticano. L'avrei apprezzato di più. Vabbè, ma che vuol dire? Però io, con tutto il bene possibile, con tutta, cioè, non riesco ad... No, per carità, il Papa ha ragione, Luttwak forse esagera su questo tema, no? Venite, forse esagera, ha ragione. Luttwak ha sempre Papa, ragione. Papa è a capo di una congrega dei criminali, noi pensa, per gente pericolosa vestita di bianco che vive in un fortino in Borgo Pio a Roma, circondato da guardie svizzere vestite come clown di circo, che invoca migranti criminali di Hamas, scusi, a venire Luttwak in Italia e fare invasione. Ma noi, scusi, pensa, per lei il Papa è un criminale allora, signor Luttwak? Criminale, abbiamo detto, vestito di bianco, dice noi della CIA, che vestito di bianco che attira anche l'attenzione Noi pensa che è molto semplice. Stato Vaticano sono pochi chilometri quadrati. Allora? Ora noi siamo dotati di grande tecnologia che si chiama drone. Con grande drone noi sorvola Vaticano. Soltanto con due bomb risolviamo il problema. Bombs, ci sarà poi sempre qualcuno di emergency che metterà delle tende fuori e comincerà a curare questi malati preti neri con schizzi di sangue e dirà che è gente buona. Stessa gente che curava i nazisti. Quindi noi a quel punto, quando vende tende di emergency, anche lì con altro drone bombarda medici che aiuta nazisti. Sempre bombs, bombs. Sempre bombs. A lot of bombs. Ma il numero uno assoluto si chiama Raffaele Morelli. Io sono innamorato di quest'uomo, signor Raffaele Morelli. Guarda, picchio sulla struttura di Radio. Signor Raffaele Morelli, Raffaele Morelli, il quale ma dice: non farai mai ascoltare qualcuno di intelligente, no, qualche Morelli, intellettuale. Ma Morelli è un genio, qualcuno. Ma stai scherzando? Raffaele Morelli è Morelli. Come sai, un genio assoluto. Che è psicologo, psichiatra, che è Morelli, non mi ricordo più. Vabbè, psicologo, sì. Psichiatra. Ospite televisivo, psichiatra o psicologo, non lo so. Vabbè, Raffaele quello della Morelli. Rivista. Va sempre in televisione, sì, numero uno. Numero assoluto, uno, dai. Quello della rivista psicosomatica, Rizza allora, psicosomatica. Sì, sì. Ragazzi, state ben attenti a quello che dice sulla dimagrimento, sai che c'è tutto il filone di Lemme, sì. Sul dimagrimento. Il sesso e il tradimento sono potenti dimagranti. Questo è fondamentale, quello che dice. No, ma fondamentale, soprattutto il tradimento. Il sesso, beh, uno può capire, no? Si sprecano energie e dunque tu dimagrisci. Ma perché il tradimento? Il tradimento, che adesso Morelli ci spiegherà. Se tu esci di casa e gli uomini non ti guardano, vuol dire che il tuo femminile si sta assopendo. Vuol dire che tu non te ne stai occupando. Se non te ne occupi, sai cosa succede? No. Che nel cervello tutta quell'energia legata agli ormoni, al dimagrire, il sesso è uno dei più potenti dimagranti che esistono. Anche il tradimento. No, anche il tradimento. Allora, prima di aprire le linee, caro Parenzo, prima di iniziare il solito circo qui alla Zanzara, ragazzi, con i numeri di telefono che vi proporremo attraverso la voce meravigliosa di questa femmina, molto femmina. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Devo dire che inizierò una personale campagna, caro Parenzo, trema a favore di alcuni signori che per goliardia hanno inscenato dei finti matrimoni con fette di salame come ostia al posto dell'ostia. 64 ragazzi che sono stati indagati per vilipendio alla religione. Giusto. Ma come giusto? Blasfemo, dai. Ma che blasfemo? Cioè, erano celebrazioni. Adesso che... quel reato lì forse è un po' assurdo. Allora, fermo. Però. Allora, celebrazioni che si svolgevano sul sagrato della chiesa di San Genesio ma a Bigoleno. Dai. Sono stati segnalati alle forze dell'ordine da un parrocchiano. Adesso rischiano fino a 2 anni di carcere e una multa che va da 1.000 a 5.000 euro. Allora, cari io sarei ragazzi, più per la multa che cari il carcere, ragazzi, multa. Cari ragazzi, offese a una confessione religiosa mediante vilipendio. Vi dico, noi siamo, almeno io sono dalla vostra parte. Dunque, da domani in poi, da oggi in poi, contattateci, vi cercheremo noi uno per uno. Saranno difesi da questa trasmissione perché non hanno fatto male a nessuno davanti al sagrato di una chiesa. Hanno inscenato delle finte messe. No, hanno insultato davanti alla chiesa. Non si fa, è una provocazione. Non sono d'accordo. È una brutta provocazione davanti alla chiesa. È offensivo. Due matrimoni, un battesimo, dai. Maleducato, su, due. Offensivo. Dovevano prendersi uno sganassone in faccia, secondo me. Ma lascia perdere, ma uno può essere andare sotto processo perché mette in piedi una finta o una finta. No, dai, lavori socialmente utili. Lavori socialmente utili. Pulire il sedere agli anziani, andare a pulire i campi dei Rom. Lavori socialmente utili per questa gente. Lavori socialmente utili. Francesco da Roma, cazzate. Dai, Francesco, vai. Ciao Beppone. Dimmi. Ciao Lorenzo. Allora io ieri stavo facendo un giro, no, venerdì perché era un giorno di lavoro, stavo facendo un giro a Rione Monti, conoscete di Roma? Sì, come no? Sì. Penta, allora? A Piazza degli Zingari, sì. Ogni giorno a mezzogiorno, alle 2, ci stanno le puttane, tremende poi. Ma dove? Puttane. Dove? Non ho capito. Per strada. Beh, vabbè, d'accordo, a che ora? Scusa, ma dove? Al quartiere dove? A Roma? Rione Monti. Vabbè, ma ho capito, ma Rione Monti alle 2 di pomeriggio non ci sono le puttane. Dai, su, amico mio, l'hai volute vedere le puttane, ma non esistono. Vabbè, ho capito, domani. Ma sarà un caso isolato, saranno due ferme no, sulla strada. Assolutamente no. Vabbè, e che vuoi fare? Allora, fai una segnalazione al prefetto, non so che cosa, dai. Sì, però forse non so, da voi mi aspettavo, come dire. Che cosa? Una... Io sono a favore della prostituzione, figuriamoci. Figuriamoci se contesto il fatto che ci possa essere. Per carità, la vorrei legalizzata. Dunque, quella signora o signorina che stavano lì dovrebbero stare a partita IVA con la fatturazione, sai, col POS. Col POS a portata di mano. Bellissimo sarebbe. Quartiere come Rione Monti. Lo sai che potrebbe essere una grande iniziativa? Mettere. Potrebbe essere veramente una grande cosa. Quelli che organizzano i POS potrebbero distribuire dei POS gratis alle puttane. Beh, sarebbe straordinario, Parenzo, ci pensi. Nei posti che, dove tu vai, nei bordelli, quelli bordelli svizzeri, esistono, d'accordo, diciamo, no, dico fino in Italia. Fino a quando non ci sono bordelli legalizzati con il controllo delle ragazze, l'abolizione della tratta delle schiave. No, ma anche per strada, le persone ma con il posto in mano. Ma quelle povere ragazze sulla salaria ma adesso possono avere sfruttate... da miserabili con il loro macchinone che si fermano lì a mezzogiorno. Vabbè, io però non ho capito Francesco perché ci ha chiamato per dirci che c'erano delle persone che battono per strada in pieno giorno al quartiere Monti. È una merda, Rione Monti, cioè conto della salaria già degrado, cioè un degrado pazzesco quello. Rione Monti, cioè non so se te piazza degli zingari di Urbana, fai la tua, fai le tue proteste ai comitati di quartiere, ai, al Papa, non so a chi, eccetera eccetera. Michele da Padova, dai. Fermo, che fai? Chiudi, che fai? Impazzisci, Michele, forza. Chiudilo subito. Dimmi, Michele, dimmi. Mamma mia. Michele! Si va... Che vuoi? Chiudilo, dimmi. Chiudilo che bestemma. Allora, fermo, fermo. Non cominciare, non cominciare a dire cazzate. No, che ti chiudo lei subito. Non parlo, guarda. Lorenzo, stai zitto stasera. No, io non stai parlo zitto. Con chi bestemmia, dai, imbecille. Forza, dai, zitto. Mamma mia. Allora, io non parlo con chi bestemmia, imbecille. Non ha detto niente per adesso, dai, su. Ha bestemmiato, stai ma era fuori, non pensava di essere in diretta. Se vuoi portarti a casa gli extracomunitari, se vuoi portarti a casa... Adesso che c'entra? Stiamo parlando del Papa, che c'entra lui che si vuole portare a casa gli extracomunitari? L'ha detto prima, lo ha detto prima, se li deve portare a casa quei soldi suoi, no quei soldi degli altri, bisogna lavorare, pagare le tasse, e allora poi si capisce cosa vuol dire, che qua aumentano continuamente le tasse. A cosa ti riferisci? Non ho capito, al che Papa? Che non si può portare qua al mondo, dobbiamo chiudere anche noi i confini. Vabbè, dobbiamo chiudere i confini. Sei tu, quando hai la casa piena di extracomunitari, poi puoi parlare. Dobbiamo chiudere i confini. Che vuol dire? Che vuol dire chiudere i confini? Cosa vuol dire? Da sputare in faccia sto idiota. Che non possiamo mantenere tutta la gente noi e la gente come Parenzo che vuole mantenerli tutti, prima se li porta a casa lui, ne mantiene 20, 30 e poi comincia a parlare. Ma che c'entra? Ma che c'entra adesso? Adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Imbecille ignorante cretino. Tu non hai mai lavorato, incomincia a lavorare prima e poi capisci qua siamo pieni di tasse, cosa dobbiamo aumentarle ancora per che... mantenere tutto il mondo. Ma cosa c'entra bisogna adesso mantenere questo? Sto idiota qua, guarda te. Che viene qua, chi la mantiene, se questo sa male mi tocca pagargli pure mantiene, l'ospedale. Sto chi idiota. La mantiene, no, Parenzo. Se questo ubriaco qua va all'ospedale, mi tocca pagarlo a me sto ubriaco qua. Sì, dai, ti aspetto, ti aspetto. Dai, ubriacone, ubriacone, torna, fatti la prova dell'alcol prima di metterti in macchina, ubriaco. Prova dell'alcol. Prova dell'alcol, cretino. Silvano, andiamo a Vicenza, Silvano, è arrivato il pazzo. Michele è arrivato. Vai. Silvano, dimmi. Attenti per le strade di Padova che c'è un imbecille ubriaco. Dai, Silvano, vai, vai. Sì, sì. Il Papa potrebbe dare la cittadinanza e il passaporto del Vaticano a tutti gli immigrati. Sì. Che se ne vadano in giro per il mondo con migliaia di euro, prendono l'aereo e vanno dove cazzo vogliono. Stati Uniti, Sud America, Australia. Non ho capito bene. Secondo te, tu sei contro il fatto che il Papa abbia portato questi 12 musulmani? No, non è il discorso che abbia portato 12. È che fa venire mezza Africa. Ma fa se venire mezza Africa con che cosa? Con i suoi appelli? Perché è una specie di calamita, come dice il professor Lutu. Sì. Non ho capito. Sì, no, se gli dà il passaporto Vaticano a tutte queste persone, gli immigrati, quelli possono emigrare ovunque, andare in America, andare in Australia, dove vogliono. Cioè tu dici, con un po' più di coraggio, se fosse coerente fino in fondo, darebbe il passaporto Vaticano a tutti i cosi, a tutti gli immigrati. Sì. Vabbè. Di fatto, cittadini vaticani possono andare ovunque, come i monsignori, i cardinali, eccetera. Fermo lì, fermo lì. Ieri mattina vado al seggio e leggo Volete voi che sia abrogato l'articolo 6,17 terzo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006 norme in materia ambientale, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 numero 208, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, limitatamente alle seguenti parole: per la durata di vita utile del giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale? Ma cosa cazzo ce ne frega? Ed è quello che hanno pensato milioni e milioni di italiani, caro Parenzo, non andando a votare. Beh, non andando a votare, padre. Non andando a votare. E questo c'è andato, non però. Andando a votare. Sì, certo, poi non ha capito un cazzo e magari non ha votato. Se figurati, c'erano tutti gli strumenti per ma capire quale, di cosa si stava parlando. Ma quando mai? Cioè, ancora fate. Una massima del professor Morelli, stai a sentire, stai a sentire. Se l'Eros viene meno, aumentano i pericoli della salute. E dunque l'Eros va cercato anche fuori casa. Ma teniamo presente una cosa, che se l'Eros viene meno, i pericoli per la nostra salute aumentano. E quindi, anche se quello che dirò non piacerà, quindi dobbiamo farlo tutti l'Eros cose va cercato, per stare bene. Se non si vive in casa, va cercato okay. altrove. Se non si vive in casa, va cercato altrove. Io voglio, credo che farò una statua delle massime, con sotto tutte le massime del professor Morelli. Oh, finalmente c'è qualche prefetto che ragiona, eh? Qualche prefetto che ragiona, caro Parenzo. Un prefetto, credo, a Lucca, che ha cacciato dei profughi, annullato il decreto sì. di accoglimento, perché questi signori profughi praticamente sì. si sono rifiutati di entrare dove, nella struttura che li accoglieva, eccetera, eccetera, perché in quel posto, che era un po' in montagna, vicino Lucca, i cellulari non prendevano. Non c'è segnale per i cellulari. I profughi protestano. Il prefetto li caccia. Devono mettere un telefono a disposizione. Devono mettere un. Cosa? Un telefono a disposizione per ah, un far telefono sì a disposizione. Un telefono a disposizione. Ci cioè, i profughi vengono in Italia perché in teoria è in pericolo di guerra. No, no, poi bisogna in teoria vedere. Non fare il populista qualunquista. Legaiol. E devono avere un telefono a disposizione. Se li metti in un posto paga? In cui non prendono. Chi paga? Chi paga? Chi paga? Molto molto semplice. Chi? Paga lo Stato, la collettività, è una sorta di welfare, è il dovere della due nigeriani hanno rifiutato l'ospitalità in una canonica, praticamente. Due nigeriani. Certo, due nigeriani. Oh! Due nigeriani che non possono telefonare! E allora la rivolta sociale no, dei camionisti! Portateli a casa tua! Due nigeriani! Scandalo! Ma non c'è bisogno, il prefetto. Andate tutti quanti a fare in culo. No, ma non c'è bisogno, il prefetto. Ti parlo come Donato da Varese, ma perché prefetto, è l'unico linguaggio che tu capisci. È il prefetto che li anche ha cacciati. Quel, è il prefetto, signor prefetto. Quel prefetto, visto che sta in una prefettura pagato coi soldi nostri, beh, con certo. decine di persone che lavorano, metta il telefono della prefettura a disposizione anziché cacciarli per due nigeriani che devono fare una telefonata a casa loro per dire che stanno no, amico bene. Mio, il telefono metta fisso il c'era. Il telefono della sua prefettura. Prefettura, a cosa serve la prefettura? Il telefono fisso. Il telefono fisso c'era. Sì, questi fa però la deviazione di chiamata su quello della prefettura. Cosa no, quanti telefoni ci sono nella prefettura di Lucca? Ristabiliamo le cose. Questi due signori si sono rifiuti siccome non c'era campo, siccome non c'era campo in quella zona e volevano usare i cellulari perché sono i profughi, sono profughi però col cellulare. Sono profughi col cellulare. No, ma per dire, il cellulare perché c'è la Varese non può avere un profugo. Col cellulare. Allora, profughi col cellulare volevano usare. Il cellulare ormai ce l'hanno tutti. Ho capito. Costa 20 non euro. Non c'era il campo e si sono rifiutati di scendere al pullman. Hanno diritto di telefonare. Hanno diritto di telefonare. Dunque, bisogna mettere in una zona dove c'è anche il campo. C'è anche il campo per no, telefonare. Oppure dategli un modo perché si possono mettere in contatto con le loro famiglie, no? Ma ci sarà il modo. Quelli volevano il cellulare per fare i cazzi loro, giustamente. Ma dategli allora un telefono della prefettura. Dategli qualcosa. Ma non mi pare uno scandalo. Non mi pare un costo insostenibile. Nico da Firenze, vai, Nico. Non ho l'auricolare, ho abbassato la radio, non ti saluto e vado al dunque. Sì. Parenzo, quando 300-400 musulmani si sono messi a pregare sul sacrato di Milano, davanti al Duomo, non ho sentito nessuna denuncia e nessuna indignazione da parte di quel signore. E che cosa quali regole hanno violato? Come? Prova ad andare tu in Marocco, in Tunisia, o in qualche paese vai a pregare e vai a pregare. Ma quelli non sono davanti, paesi civili. Davanti a una moschea. Ah, non sono civili. Ma quelli non sono. Dicendo no. Che non sono civili. Certo. L'Arabia Saudita non è uno stato di diritto. No, io non mi pare. Parlato dell'Arabia Saudita. Ma che cosa vuoi dire? Ma anche il Marocco non è tra i paesi voglio più democratici del mondo. Parenzo non si deve indignare solo per le cose che vede lui. Ci sono tante cose che Parenzo le ignora, come quella di dargli il telefono. Ma perché veramente? Forse ha perso la testa. Dai, vi ascolto per radio. Che è meglio. Ciao, Marco Bari. Perché ci devi ascoltare per radio? Prima chiami e poi dici ci ascolta per radio. Marco da Bari, vai Marco. Marco. Marco. Antonio, Roma. È una breve osservazione quando Parenzo dice che sono dei miserabili quelli che vanno sulla salaria sì. a prostitute. Sì. Purtroppo la prostituzione col bollino equo e solidale ancora non esiste. Bravo. Ma purtroppo tutti noi quando cerchiamo di risparmiare qualcosa, di andare in un negozio dove le cose costano meno, allora siamo dei miserabili perché... sfruttiamo il lavoro altrui. Antonio, tu mi sembra di capire che sei uno di quelli che ogni tanto per fare delle economie sulla prostituzione va a salaria va sulla salaria puttana, così per dire no, o no? No, io non ci vado proprio per niente. Però tu dici che è giusto rispettare anche quelli che per risparmiare due lire o perché non hanno la possibilità vogliono spendere 30-40 euro, no? Noi tutti, quando cerchiamo come tutti di fare economie su qualcosa, in un certo senso dall'altra parte sfruttiamo qualcun altro. Sì, allora... E niente, quindi non è solo nella prostituzione il problema, se la vogliamo pensare come la vede Parenzo. E in che cosa è il problema? Non ho capito. Che siamo un po' tutti miserabili, per dirla come Parenzo, quando cerchiamo lo sconto, l'offerta speciale. Sì, ma in questo caso dice Parenzo siamo miserabili speciale. Perché sfruttiamo qualcuno, ecco. Sfruttiamo qualcuno. Però vabbè, ma uno non è che uno c'ha il timbro di sfruttata in fronte sulla prostituzione. Beh, però si capisce che in alcune situazioni c'è sicuramente sfruttamento. Ma chi l'ha detto? Se c'è il pappone vicino te ne accorgi, se non c'è il pappone vicino mi come fai mi pare che la condizione delle donne che stanno, dico per comodità, la Salaria o altre zone di Roma, o Torpignattara o Prima Porta, mi pare che se uno va a Prima Porta a Roma o in altre periferie sa perfettamente che quelle donne 90.9% non sono libere, lo sanno anche i sassi, voglio dire, non io solo. Allora, il calcio. Sentiamo le accuse gravissime che ha fatto il presidente del Palermo Zamparini nei confronti dei giocatori del Verona. Tu sai, Parenzo, che ieri il Frosinone, squadra che è in lotta per salvarsi insieme al Palermo, squadra di cui è presidente Zamparini, ha vinto 2-1 all'ultimo secondo a Verona. Dunque, Verona-Frosinone 2-1, un risultato che chiaramente non è andato bene al Palermo, il quale ha perso 4-0 a Torino con la Juventus. Il presidente Zamparini, ospite, credo, di una trasmissione della RAI, GR Parlamento, non mi ricordo che cos'è, ha detto GR Parlamento intervista a Zamparini? Sì, no, perché c'è una parte dedicata al calcio. Cosa è successo? Dice che i giocatori del Verona praticamente si sono scansati. Accuse gravissime. Senti. Violazione dell'ultimo gol dove i giocatori del Verona si tirano indietro invece di andare sulla palla, dai, lo dico, fate i bravi. Quindi il presidente Zamparini dice che i giocatori hanno praticamente, quelli del Verona hanno fatto segnare il Frosinone. Pisano, invece di andare sulla palla si è girato dall'altra parte. Presidente, le sue parole sono molto gravi, molto pesanti. Ma è grave che voi fate silenzio. No, è grave quello, sì. No, presidente. Ma dovete smettere di fare silenzio, perché il calcio italiano è arrivato anche a questo, perché nessuno denuncia queste cose, punto. Beh, ragazzi, qui è un'accusa grave. Praticamente, secondo lui, quelli del Verona si sono venduti la partita. Questa è la sostanza. Zamparì, quelli del Verona, secondo il presidente del Palermo, si sono scansati. Dunque, deliberatamente hanno fatto segnale il Frosinone all'ultimo minuto. Una cosa gravissima, gravissima. Però il top è lo spot che mi hanno segnalato, lo spot di Salvini per il 2 per 1000. Sai che adesso si avvicina la dichiarazione dei redditi. Certo. Senti lo spot che hanno fatto da Salvini alla Lega, il 2 per 1000. Beh, certo, alla Lega, tu sai che si possono dare i soldi ai partiti. Sì, no, io lo do a un'associazione di migranti, il mio 2 per 1000. Non ci posso credere. Mentre cioè, tu dai il 2 per 1000 all'Unione delle comunità ebraiche italiane. Che cosa dai? Ovviamente il 4 per 1000 lo do alla comunità ebraica italiana. Tu sei ebreo e sei anche praticante. Praticante indipendentemente. E il 2 per 1000 lo darò, adesso poi ti dirò anche un'associazione dei, che si occupa proprio dell'accoglienza. Dell'accoglienza, sì, dei 2 per 1000, certo. Parenzo, anche tu perché... dai soldi per l'accoglienza ai migranti. Non è così clamoroso. Do i soldi per l'accoglienza ai migranti. Beh, chi dovrei dare? No, a Libero, non dai, come dice Salvini. Ma senti lo spot di Salvini, senti. Lo so che sei nervosa, è per il 2 per 1000, vero? che devo dire. Ricordatevi che il codice da indicare nella dichiarazione dei redditi è D13. Sì, D13. D come donare, 1-3. Donare il 2 per 1000 non costa nulla. Parola di Matteo Salvini e di... www.2permilleruspa.com. Cioè, parla con la ruspa! Con la ruspa, parla sì. Con la ruspa! Vabbè, amico mio! Ognuno parla con è quello come che i ha. Vegani che parlano con. No, gli animalisti che parlano con. Che ne so, con i. Sì, gatti, con le verdure, con le verdure. Carote. Senti, senti ancora, secondo spot. Ciao ruspa, che c'è? Ok, glielo ricordo. Per donare il 2 per 1000 alla Lega, il codice è D13. Sì, D13. E non importa se donate anche il 5 per 1000 o l'8 per 1000, è un'altra roba. Donare il 2 per 1000 alla Lega non costa nulla. Donatevi il vostro 2 per 1000. Vroom. www.2permilleruspa.com. Vroom. Vroom anche. Ragazzi miei. Che paese, ragazzi miei, che paese. Che paese. Questa non ci voleva. Ti hanno tamponato. E senza auto la tua giornata è rovinata. Stai tranquillo. Nessuno ti protegge come AXA. Scegli la protezione auto di AXA. E pensiamo noi a carro attrezzi, vettura di cortesia e riconsegna dell'auto a casa tua. Chiedi a un agente AXA o nelle filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Nessuno ti protegge come AXA. Prima della sottoscrizione leggi il fascicolo informativo su auto.axa.it. AXA. Ridefiniamo la protezione. Corriere della Sera presenta Le conquiste della matematica. Formule e teorie per capire il mondo. Una collana di DVD inediti. Un viaggio affascinante per guardare la realtà attraverso gli occhi della matematica. Il primo DVD, Gli algoritmi che hanno cambiato il mondo, di Marco Sedussatoi, è in edicola. Se quando guidi ti piace ascoltare questo, ma appena ti fermi ti piace ascoltare questo, allora ti piacerà anche ascoltare questo. Dalla ricerca ENI nasce ENI Diesel Plus. Rispetto al diesel tradizionale, contribuisce a ridurre i consumi e le emissioni di CO2 con il 15% di componente rinnovabile. Nuovo ENI Diesel Plus. Più cura del motore. Più attenzione all'ambiente. In oltre 3.500 ENI Station. Provalo. 0,90 di spread. Scopri Mutuo Casa Primavera di Veneto Banca. Fino al 30 giugno 2016 acquisti o ristrutturi casa a tasso fisso o variabile con spread a 0,90 fino a 20 anni. Chiama l'800 37 37 97. Esempio, mutuo a tasso variabile di 100.000 euro in 10 anni TAN 0,90 TAIGUN 22%. Comprensivo di commissioni di istruttoria, spese incassorate, imposta sostitutiva, perizia e assicurazione sull'immobile. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi in filiale sul sito Veneto Banca. L'erogazione subordinata alla valutazione della banca. JP Morgan Asset Management vi presenta Borse in diretta. Buonasera, subito a Wall Street, dove il Dow Jones è in crescita dello 0,46%, mentre il Nasdaq sale in questo istante dello 0,16%. In Europa, nonostante il nulla di fatto a Doha, i principali listini hanno chiuso sui massimi di giornata, sembrando dare ragione agli esperti, secondo cui la correlazione petrolio-azione si sta affievolendo. Francoforte ha guadagnato lo 0,68%, Parigi lo 0,26%, Londra è salita dello 0,15%. Milano, nonostante lo stacco cedola di 5 società abbia pesato per lo 0,32%, ha chiuso in crescita dello 0,53% sul FTSE MIB, tornando ai livelli del 30 marzo. A Piazza Affari prosegue l'effetto atlante sui finanziari. Monte dei Paschi ha guidato le blue chip con un più 8,24%. Bene anche Anima, più 5,76%, e Unipol, più 5,36%. Quest'ultima sostenuta anche dai contatti con Bipper, che potrebbero rafforzare le alleanze industriali tra i due gruppi emiliani. Dall'altra parte del listino, giù Unicredit, meno 3,43% nel giorno dello stacco cedola, ST, meno 1,75%, e Telecom Italia, che ha perso l'1,68%. Lo spread BTP Bund ha chiuso 119 punti base con rendimento all'1,34%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,1321. E tutto, la borsa torna alle 20.30. Senti, come posso proteggere i miei risparmi? Mettili nel materasso. Sì, così però non si rivalutano. Allora, nel sottotetto. Dai, non scherzare. Non scherzo affatto. Un sottotetto trasformato in mansarda aumenta moltissimo il suo valore. E poi ti godi lo spazio. Un sottotetto ristrutturato vale fino al 39% in più. Grazie alle detrazioni fiscali si trasforma in un vero affare. E con le finestre per tetti Velux diventa un ambiente pieno di luce, comfort e benessere. Per te la guida da sottotetto a mansarda. Richiedila su velux.it. È adesso che stai scrivendo la storia della tua vita. Rendila unica e qualcuno avrà voglia di leggerla. La vita è un'avventura. Vivila con Jeep. Se hai una partita IVA, c'è Renegade Business, con navigatore satellitare, sensori di parcheggio e Uconnect di serie. Ad aprile tu a 199 euro al mese con 4 anni di assicurazione RCA, manutenzione e garanzia inclusi nella rata. TAN 395, offerta valida salvo approvazione FCA Bank. Info e condizioni su Jeep Official. Innovazione digitale, ne parlano tutti. Sì, ma pochi la realizzano davvero investendo in ricerca e brevetti. Come InfoCert, l'unica che rilascia la firma digitale online grazie al riconoscimento web. Ti bastano una webcam e un documento d'identità. Senza spostarmi da casa o dall'ufficio. Certo, e in più puoi ottenere gratis la tua identità digitale SPID, un'unica password per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Con InfoCert, l'innovazione digitale è alla portata di tutti. InfoCert, il futuro digitale è adesso. Nessuno merita lodi per le sue buone azioni se non ha il coraggio di essere cattivo. Dopo Viva la Libertà, il nuovo film di Roberto Andò. Le confessioni dal 21 aprile al cinema. State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different. Scopri il nuovo modo di guidare su drivedifferent.it. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. C'è un tizio da Napoli che mi rompe i coglioni. Vediamo un po' se lo pizzico. Mi ha scritto un messaggio il buon Poletti. Aspetta, aspetta, aspetta. Mica risponde questo, eh? Da Napoli, signor Raffaele Ascione. Tre informazioni. Amico mio. Rispondi, Ascione. Dunque intanto scrive Poletti, l'inviato di Quinta Colonna, che dice: ciao David, sto andando in un campo rom per Quinta Colonna, dentro le casette, tra virgolette, hanno appeso la tua foto al posto di Padre Pio. No, non ci posso credere. Posso dire che siamo amici anche se ti odio così la diretta fila liscia? Ma non credo, Chiamalo. Dentro le casette. La notizia è questa, vero o non vera, non ce ne frega niente. No, va verificato. Non va verificato niente. Non va verificato nulla. C'è la foto di Parenzo. No, così dice Poletti, sai. Beh, no, ma Poletti ottimo. Dunque, l'ottimo sicuramente è vero. Sì. C'è la foto di Parenzo dentro alcune casette in un campo rom al posto di Padre Pio. Esatto. Prevedi il santo protettore dei rom italiani. Sì. No, si santo, chiama no, David Parenzo. Santo, no, perché sono vivente. In genere i santi sono quelli morti. Quindi già questo porta nera. Allora, la signora Merkel pare che abbia dato il via libera, secondo alcuni era inevitabile, cioè lei non c'entra niente, secondo altri invece ci ha messo lo zampino la signora Merkel, alle accuse nei confronti di un comico tedesco che ha preso a male parole, diciamo a male parole, il presidente turco Erdogan. Ora, la signora Merkel è la stessa che sfilava per le vie di Parigi? Sfilava per le vie di Parigi, non mi fate incazzare, sfilava per le vie di Parigi? Quando ci fu Charlie Hebdo e tutta la roba là delle uccisioni del giornale satirico parigino. E adesso invece mette in stato di accusa per vilipendi a un capo di Stato, a un capo di governo straniero, in questo caso il presidente turco Erdogan. Perché questo comico, cosa vuoi che abbia detto? Che Erdogan per esempio si inchiappetta le capre? Così ha detto che Erdogan. Ma non ho capito, ma lo scandalo è quella Merkel o il comico che è andato magari oltre il limite mettendo in crisi i rapporti? Se Erdogan vuole portare in tribunale il signore, lo cita per diffamazione. Questo è un comico, ovviamente, ha fatto delle battute pesanti, criticando la politica. Però vada in tribunale se pensa che non sia un pezzo di comicità, ma semplicemente diffamazione e ingiuria. La colpa della Merkel quale sarebbe? Non quella capisco. Di aver contribuito, dato il via libera all'incriminazione di questo Bemmermann. Evidentemente la Costituzione tedesca prevede. L'ha fatto incriminare lei. Assolutamente, assolutamente. Senti che dice questo qua, eh? Erdogan si inchiappetta le capre, stupendo. Sack doof, feige und verklemmt. Ist Erdogan der Präsident? Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, chiaro, der Mädchen schlägt. Und dabei Gummimasken. Tutto chiarissimo. Ecco qua. Questo le capre. Capito il passaggio sulle capre, quello finale, no? L'hai capito tutto, no? Sì, e poi sì, ha detto sì, anche sì. Che guarda i film pedopornografici, signor Erdogan. Ma sì. Sì, ma ho detto tutto con grande comicità, cioè non è che ci sia niente. Sentiamo, sentiamo. Sempre tutto. Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Porno schauen. Abends heißt statt schlafen fellatio mit 100 Schafen. Fellatio, ja, anche fellatio. Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Mi tagliate quel pezzettino di fellatio in tedesco, bellissimo in tedesco, fellatio, fellatio. L'unica parola che hai riconosciuto. Mettiamo, assolutamente l'unica. Certo. È pedola, che significa sicuramente pedopornografici. Però mettete fellatio, fellatio in tedesco, mettetemela sempre, di continuo, tutto in tedesco, in tedesco. Mitico, comico, Bemmermann, numero uno. C'è sto Marco da Bari o no? C'è o no? Marco? Sì, pronto. Allora Marco, Marco forza, dai, su, andiamo. Senti, io chiamo da Corato, provincia di Bari. Per Corato, provincia di Bari, che vuoi sapere da Corato? Sì, è il paese del senato Luigi Perrone. Se volete fare uno scoop. No, un non ho capito, scusa, non ho capito, non ho capito una mazza. Che stai dicendo? Uno scoop. Sì, no, io chiamo da Corato, provincia di Bari. Corato, provincia di Bari, sì. È il paese del senato Luigi Perrone, che sta a Roma. Sì. Lui ha tre incarichi, è senatore, c'è a Lanci Puglia e fa anche l'assessore al comune di Corato, che non so se è regolare, se si può fare o no. Sarà sicuramente regolare, perché altrimenti l'avrebbero già bloccato. Sì, perché non si sa, in Italia tutto è possibile. Insomma. Vabbè, ma non ho capito, perché ci vuoi parlare di questo signore di cui ce ne sbattiamo questo Luigi Perrone? Ma è senatore di che cosa? Una precisazione, così, a cazzo di cane. Uno chiama, dice, c'è il senatore Luigi Perrone. Però va bene, per carità. Ho voluto mettere una mia, così, curiosità al pubblico. Al pubblico, bene. Avevo chiamato per i migranti. Sì, avevo chiamato per i migranti. Io dai. Sono d'accordo con Salvini di aiutarli a casa loro. Sì. Questi migranti. Sì. E poi, intervento decisivo questo, diciamo. Ha cambiato paese, la giornata. Sono 30-40 che tantissimi. Abitano in una ex villa di un dottore e paghiamo 600 euro al giorno per mantenerli. Sì. E loro vanno in giro tutto il giorno con l'iPad, il telefono, profumati, Profumati. Non lavorano. Ma mangiano anche durante il giorno. Mangiano il gelato la sera. Che sì, fanno? Sono proprio comodi. Sì, mangiano il gelato anche. Meglio di un papa di un re vivono. Beh, adesso meglio di un papa di un re. Sì, come vivono? Tu li vedi bighellonare lì in giro? Ma che paese è questo qua? Sì, io qua a Corato. Ah, diciamo. Corato, è un paese di 48.000 abitanti. Non c'è il mare. Poi vanno anche ai supermercati a chiedere l'elemosina. Sì. Davanti a tutti i supermercati. Beh, ma una vergogna assoluta, mamma mia. Ma come è si una permettono? Vergogna, caro certo, è una vergogna. Senti, ma che fanno? E mangiano anche la frutta, in giro col magari, telefonino, no? Con l'iPad? Che fanno? Telefonino, iPad e tutte le comodità ce l'hanno tutte loro. Cioè, tutti ci stanno come. A pallone la mattina. Tutti ci stanno come i papi, stanno come i papi. Pallone. Sì, stanno benissimo, stanno. Invece i nostri padri, i nostri nonni che hanno emigrato, non avevano tutte queste comodità, andavano solo per lavorare. Tutti questi diritti che diamo, noi li paghiamo, li tolgono agli italiani e li danno tutti a questi... Ma che fanno poi, per Corato, cosa fanno questi signori? Stanno con l'iPad, giocano a pallone? Non mettono nemmeno a fare dei servizi utili per la cittadinanza, non so, dei lavori socialmente utili, niente di niente. Vengono serviti e reperiti dagli italiani. Magari gli si potrebbe mettere anche, come dire, una palla al piede, fargli zappare la tela con una palla al piede, no, forse, no? Così li controlliamo. Non sono mica carcerati, prigionieri dell'Alcatraz, quello no. Certo. No, però dico, insomma, dovrebbe essere regolato meglio questo. Anche questa cosa di dargli da mangiare tre volte al giorno, poi, mamma mia, basterebbe una, no? Siamo in Italia, dove li mettiamo tanti milioni di migranti che vengono, milioni, affondano, muoiono. Milioni. Ho capito, no, milioni. Si preparano milioni di migranti. Certo, adesso caldo, hanno sentito, ora che hanno sentito l'intervento calmo di questo qui, non so neanche da dove. Ma... Da Corato, provincia di Bari. Da Corato, ecco. Corato, che non è decorato, è Corato. No, Corato. Corato, vabbè, Marco, ciao. sei stato molto chiaro. Dimmi, che cosa hanno oltre i cellulari, il coso? Che fanno? Hanno anche col pisello di fuori questi immigrati? Che fanno? No, ma perché? Non lo so, se c'è da sfotte delle ragazze, le corteggiano anche. Figuriamoci se si fanno manca qualcosa questi qua. Va bene. Certi fisici alti 2 metri che non fanno niente dal mattino alla sera, insomma. Giuseppe Pistoia. Meglio quando si stava peggio in Italia allora. Mancava. Due stagioni non sono più quelle di una volta. Giuseppe Pistoia, vai. Sì, ciao. Pronto? Sì, dimmi, dimmi. Sì, no, volevo dire questo qui. Io vi ascolto tutte le sere. Sì, quasi sì. Tutte le sere. Però intervengo poco, pochissimo. Però stasera mi sento il dovere di intervenire. Perché che è successo? Cioè, sono stufo di sentirti sempre parlare male della Chiesa Cattolica. Ma io non ho parlato male, ho parlato no, stasera. Parli sempre malissimo dei cattolici, dei cristiani e via dicendo, perché te non ci credi. Ma questa qui è l'ora di finirla, questa qui è una fede. Te non ti puoi permettere di offendere così i cristiani. Ma io non ho detto nulla, ho detto che appoggio, ho detto che appoggio quei signori che hanno fatto una goliardata, una finta messa, una finta ostia, un finto matrimonio di fronte a una chiesa, perché non hanno fatto male a nessuno. Condannati, che siamo in Iran, dai su, che è una teocrazia, dai. A lavori sociali. Sì, ai lavori sociali, poi ai lavori forzati pure. Ma dai, su, ma dai. Ascoltami. Quando i musulmani vanno a pregare in piazza il Duomo Milano si urla lo scandalo, ma loro stanno pregando un'altra cosa, è un gioco, dai, su, è un gioco. Non si possono permettere. Hanno dato il salame al posto dell'ostia. Una libertà del cavolo, non si possono permettere di fare tutto quello che vogliano. In Italia non si può fare tutto quello che si vuole. Ho capito, ma non hanno fatto male a nessuno. Erano lì davanti al sacrato della chiesa a fare i loro riti, le loro goliardate. Non hanno fatto male a nessuno. Loro hanno fatto male a milioni di credenti. Giustamente loro si devono far punire con lavori socialmente utili. Cioè, i lavori apparenza impazzita. Ma voi siete completamente impazziti. No, siete completamente impazziti. Rispetto ci vuole. Abbiamo parlato male di musulmani che vanno a pregare sul Duomo di Milano, perché loro stanno pregando quel posto lì. No, ma ragazzi, ma che c'entra? Ma questi qua erano davanti alla chiesa. Al massimo può arrivare un tizio e dire: ragazzi, scansatevi, andatevene, eccetera. Ma metterli sotto accusa per vilipendio alla religione, una pena che se la ricordano. Sanno che tanto va a finire così, così una goliardata e via dicendo. No. Ci sono delle cose che bisogna fare, mandare in galera, pulire il culo non so a chi, vanno a aiutare questi musulmani, questi immigrati, vanno a aiutare chi ha bisogno. Sì, bravo, un mese, due mesi, ma smettila Giuseppe, queste cose sono una roba da Iran, da teocrazia, non da Italia, un paese laico, perché tu ti sei sentito offeso. Laico cosa vuol dire? Non si offendono le persone. Il problema nostro tu ti sei sentito offeso, tu. Io mi sono sentito offeso. Io mi sento offeso quando questa troppa libertà, ognuno crede di fare quello che il diavolo vuole. Ma non è così che si fa. Ho capito, ma basta non fare, amico mio, però non è successo niente di particolare. Cioè, hanno fatto un paio di cose, tra l'altro l'ultima un anno fa, davanti a una chiesa, al sagrato di una chiesa, una specie di finto matrimonio, una finta messa, una finta ostia. Dai, ma perché davanti a una chiesa è offensivo, peraltro. Ma è apposta, lo fanno apposta. Ho capito, ma non è che la democrazia vuol dire diritto di offendere gli altri. Ma perché questo offendere è il punto. Gli altri, dai, su. Ma io poi, come sapete, ormai sono di un'altra. No, ma sì, però non c'è bisogno che lo ripeti 40 volte. No, ma lo dico perché non è che ho interesse a difendere la chiesa. Giuseppe, ciao. Non interessa niente. Dai, rimandiamo lo spot di Salvini con la ruspa, dai, che parla la ruspa, che è meraviglioso. Dai, rimandiamo il terzo che non abbiamo mandato, il terzo spot, dai, del 2 per 1000, sentiamolo. Ciao Ruspa, a chi doni l'8 per 1000? E il 5 per 1000? E il 2 per 1000? Ah, beccato, questo non costa nulla. Tu dici piuttosto che lasciarli all'erario. Per donare il 2 per 1000 alla Lega basta scrivere D13. Come donare. Allora, però, Matteo, ma io dico, ma come, chi te l'ha data questa idea di... di parlare con la ruspa. Parlare con la. Ma la ruspa risponde. Che ha fatto? Ha risposto la ruspa. Ma che risponde? Ma è carina, D13, D13. Vabbè, adesso l'abbiamo già detto, io non do. No, io non do nessun soldo ai partiti, per carità. Per me il finanziamento pubblico dovrebbe essere cancellato. Guarda, meglio averlo trasparente dalla gente che lo vuole dare piuttosto che averlo da banchieri, petrolieri, finanzieri. O... No, magari deve essere deve essere trasparente pure quello. Può anche venire da quello, ma deve essere trasparente. Cioè, io banchiere voglio dare. Anche Renzi è stato finanziato dai banchieri, la Serra, quello là. Cioè... Chi l'avrebbe mai detto? Che poi le leggi che sono state fatte siano state utili adesso, a qualcuno. Che strano. Adesso. Vabbè, dai. Fa niente. Comunque, cioè, lui rifiuterebbe, l'amico Salvini rifiuterebbe i soldi di un banchiere, ad esempio. Non credo. Ma guarda, non mi sono mai posto il problema perché non se ne sono mai avvicinati. Forse perché noi preferiamo altro tipo di imprenditore. Nel passato, qualche banchiere, nel passato, qualche banchiere della Lega aveva a che fare con la Lega, amico qualche mio, banchetta. Però. L'abbiamo sbianchettato a dovere. Vabbè, d'accordo. Senti, ma io non capisco questa cosa del Papa. Questa cosa del Papa. Perché cosa sembra. Beh, ha portato un certo numero di immigrati. Bellissimo. Rifugiati. Sembra regolari islamici, dicono loro. Non so come hanno ottenuto i documenti. Sì. Scappando dalla Siria, scappando dalla guerra. Dicono che sono. Tu hai sei sicuro. Controllato, insomma. Detto questo, il Papa fa un bel gesto da Papa, il problema di noi esseri umani che amministriamo nel piccolissimo questa terra è che a gesti come questi poi possono conseguire altre centinaia di migliaia di arrivi. Cioè tu dici, che il Papa, tu dici che il Papa dà il cattivo esempio, diciamo. Dai no, ma non mi permetterei mai. Dico che... Un po' l'hai detto. Che, no, ma sto dicendo che il Papa fa il Papa, parla alle anime e salva le anime. Beh, salva questo, anche se le persone in questo caso. A 12 immigrati, sicuramente passa l'idea che in Italia ci sia spazio per tutti. E poi magari partono come oggi altre migliaia di disperati, ne affogano 200 perché erano convinti che in Italia ci fosse spazio per tutti. Cioè, stai dicendo che indirettamente il Papa favorisce. Questo lo dici tu. Ma non lo dico io, stai dicendo. In Italia c'è spazio per tutti, bisognerebbe pensare alle conseguenze. Ma non appunto, dunque, il Papa sostanzialmente favorisce l'immigrazione. Il Papa fa il Papa, io non me la prendo col Papa, io me la prendo coi politici che emulano in brutto il Papa, la Boldrini, Renzi, Mattarella, Napolitano. Il Papa fa il Papa. Cioè, tu stai dicendo. Ho capito. Il professor Luttuak dice che questo Papa, andando a Lampedusa e facendo i gesti che fa, è uno delle più grandi calamite per l'immigrazione clandestina. Signor Luttuak. Sicuramente incentiva l'immigrazione clandestina. Ma non è che incentiva, quelli scappano comunque. Scusa, se stanno male, sono in guerra. Se ma sanno è ovvio, che c'è dai. Il Papa che dice, ragazzi. Ma il Papa li accoglie perché il Papa. Ma le persone umane, che devono fare? Le persone umane, le persone che hanno cuore. No, perché, scusa, salvare le vite, ritiene no? Che l'immigrazione vada regolamentata non ha cuore, non è umano? No, certo, ma andrebbero fatti i corridoi del mare, ad esempio. Ma che corridoi del mare? Corridoi per salvare più vite possibili. I corridoi si fanno a casa mia, non i corridoi del mare. Quando si ristrutturano le case. I barconi che sono su cui sarebbero affogati questi 200 poveretti, faccia l'anima loro, sono partiti dall'Egitto. L'Egitto ha un governo, ha un paese legittimato, ha delle forze dell'ordine. Li riporti in Egitto. Al giorno d'oggi, con i radar, tu intercetti anche un moscerino. Figurati se la Marina Militare Italiana non intercetta barconi in mezzo al mare. Li fermi, li soccorri, li salvi, li nutri, li curi e li riporti nei porti da cui sono partiti se c'è un governo come Senti, c'è in Egitto. Uno mi ha scritto, il Papa si è comportato praticamente come uno scafista in questo caso, cioè come una specie chiaramente è una provocazione, però se tu vai lì e porti, scegli 12 e li porti in Italia... hai fatto il lavoro dello scafista. Del trafficante. Sono l'ultimo dei buoni cattolici, è un enorme peccatore. Quindi la mia polemica non è enorme peccatore. Quanto sei peccatore? Pronto. Non ho capito. Che è successo? Forma, pronto? Pronto. Dove scende dalla ruspa per l'altro? Adesso torniamo, Renzo da Torino intanto, Renzo. Ciao a tutti. Dimmi, caro, due. dimmi. Volevo parlare con Parenzo e solo dirgli un paio di cosette riguardo le prostitute. Dai, dico una cosa, signore, signor Renzo, d'accordo. Renzo, come Lucia. Vai. Dicevo, io Arrivo più o meno dal centro sociale di Parenzo. Ma qual è il mio? Non lo sa neanche lei. Qual è il ceto sociale di Parenzo? Perché non mi ricordo. Ecco, vai, avvocato, il mio era architetto. Borghesia, insomma, borghesia. Allora... Ma che vuol dire? Media borghesia. E dicevo, non capisco tutta questa credine contro le puttane, perché... Nessuna credine. Chi va a puttane? No, come? Con chi va a puttane? Ho la credine con chi sfrutta le prostituzioni. Stai muto. No, amico mio, stai muto, lo deve dire alla sua sorella se ne ha una, a suo fratello, ai suoi figli. Fallo parlare però, Renzo. Stai muto, ho detto. No, fermo, Renzo, basta adesso, basta, basta, dai, guarda, forza. Dai. No, chiudilo. Ma è chiuso, è chiuso, dai. Mamma mia, ma che è? Matteo, ci sei? Sì, la bestemmia no, però dai, cacchio, la bestemmia no. Che devi fare? Abbiamo chiuso subito, che devo fare? No. Comunque, ripeto, io lo polemizzo con i politici che scimmiottano il Papa, che fa il suo mestiere, i politici non fanno loro. Sì, no... Anche se devo dire che dal punto di vista dell'analisi sociale del momento... Io rimpiango la lezione di Ratisbona di Papa Benedetto XVI. In che senso, scusa, non ho capito? Che aveva messo sull'attenti e sul chi va là dei problemi di convivenza con un certo tipo di Islam che qualcuno accoglie e che invece non ha nessuna intenzione di essere né accolto né integrato. No, io voglio capire una cosa. Il Papa ha fatto una specie, un'altra battuta che gira, che ha fatto una specie di X-Factor. Cioè? Cioè, nel senso, ha scelto, capito? Ha scelto alcune famiglie e le ha portate... E le ha portate in Italia. Ma gliel'avranno suggerito, sarà mica lui andato a caso nel campo di accoglienza a scegliere tu e tu. Evidentemente ci sarà una struttura diplomatica. E gli altri? Che e gli altri? Queste cose. E gli altri? Però ripeto, è un gesto che può essere bello, mediatico, caritatevole. Ma è un gesto solo mediatico, solo mediatico. È un gesto molto mediatico perché... Di famiglie in difficoltà a 50 metri dal Vaticano, sì. Ne trova migliaia in giro per Roma, quindi non c'è bisogno di andare in Grecia a recuperare qualche padre o qualche madre o qualche bimbo che non hanno colazione, pranzo e cena da mettere insieme. Detto cioè questo, meglio le famiglie, meglio se faceva questo gesto nei confronti di famiglie italiane? C'è chi prende l'aereo privato e va in Grecia, ci sono migliaia di volontari che lo fanno tutti i giorni sul pianerottolo di casa loro a Roma e a Milano. Fermi tutti, adesso torniamo, Matteo. Io prego, dico signore, ti prego, converti Luciani affinché creda nelle tue parole, in quello che tu hai detto, l'amore. Eccoci qui alle 20, caro Parenzo, con Matteo Salvini che è in macchina, non so dove, tra Latina sono e Roma. Sono arrivato adesso in un'incredibile piazza del popolo a Latina, strafiena. Ma di non che cosa? Di che devi fare? Il comizio, che devi fare? Sto parlando di Latina. Ma che devi fare? Salutami Pennacchi, il grande Pennacchi che è lì a Latina. Ho incontrato prima tantissima gente a Terracina parlando anche di pesca e agricoltura, voi non ne parlate mai. No, mai, no, per fortuna no. Quello mai. Per fortuna no. Per fortuna non ne parliamo. Speriamo che qualcuno denunzi quel cretino che ha chiamato. Guarda che l'uomo è ciò che mangia e se mangi e bevi schifezze diventi una schifezza come Parenzo. Questo che c'entra però. No, io guarda che mangio cose sanissime. Se qualcuno massacra l'agricoltura in Italia, non mi diventerà mica vegano, il latte in polvere dall'Ucraina, poi cresciamo male. Non mi diventerai mica vegano, cioè... No, io però vorrei che gli agnelli fossero italiani, non arrivassero nei camion dall'Ungheria o i maialini invece che in Sardegna arrivassero dall'Olanda. Sono cose complicate. No, vabbè, guarda, molto meno complicata è quell'infamia della legge Fornero che anche oddio, oggi ancora con sta legge Fornero. 6.000 stramaledizioni dalla gente che ho trovato. Basta qua con sta Fornero. Guarda però che continuare a mettere nel mirino l'ex ministro Fornero. Ancora, ma cambiate è sta legge. È molto pericoloso. Tu e i compagni di merende del PD, cambiate sta legge Fornero. Cambiate la legge Fornero. Ma non è un criminale la Fornero, che questo è una legge criminale. Ho capito. Ecco, ma la vostra battaglia politica è tutta incentrata su di lei come persona. Ma non vorrei guarda che nel passato lo si faceva con Marco anni. Biagi, lo facevano le Brigate Rosse con i Che la Fornero campi fino a 180 anni, ma che la sua infame legge venga cancellata perché ha fatto abbastanza disastri. Comunque è andata male con le trivelle contro Renzi, eh? È andata male, amico mio. Secondo me al nostro mare è andata bene ai petrolieri che ci risparmiano adesso, 800 milioni. Ragazzi, non è che chi non è andato a votare o chi si è astenuto, chi ha votato, no, è per l'inquinamento del mare. Questa è un'altra cazzata che gira. Si perde, per carità di Dio. Ha vinto Renzi, ha vinto Napolitano, ha vinto anche Berlusconi che non è andato a votare. Ogni volta che non si vota vince Renzi, però. Ogni volta che la gente non va a votare, vince Renzi. In democrazia funziona così. Dico semplicemente che sicuramente le persone più contente della terra ieri sera sono quelle multinazionali che hanno risparmiato alcune centinaia di milioni di euro per evitare di ripulire da quello che hanno fatto. Ma non è così, hanno vinto loro, buon per loro. Non è così semplice la cosa. Senti, ma tu nel caso della signora Doina Matei, quella rumena, no? Il padre intervistato da noi ha detto che ci vorrebbe la pena di morte per certi reati per la signora Matei, quella che è tornata temporaneamente in carcere. Quella che ghignava tranquillamente in spiaggia. Stava semplicemente era in istituto di semilibertà, stava pulendo i cessi e si era concessa mezz'ora di mare per il resto della sua vita. Io sono contrario alla pena di morte per mia cultura personale, però per alcuni reati altro che semilibertà. Tu ti rendi conto che l'assassino del piccolo Tommy, quel bimbo ucciso a 18 mesi in provincia di Parma, dopo 10 anni gode di permessi premio? Quello calci in culo per il resto della sua vita, altro che permessi premio. Lavori forzati con la palla al piede per un assassino di un lavori bimbo forzati di 18 con mesi. La palla al piede. È uno stato di diritto un po' particolare il tuo, no, quello di lavori forzati con la palla al piede. Quando fai fuori un bimbo di 18 mesi non sei un essere umano, non meriti di rivedere la luce del sole. Non ti ammazzo perché lo Stato non ammazza. Stai in galera fino alla fine dei tuoi giorni e così lavori obbligatoriamente. Per esempio, nel caso di quella rumena là, secondo te bisogna cancellare la semilibertà? Cioè, dopo 9 anni non si può fare la semilibertà? Non puoi sfottere una famiglia di una ragazza. Ma chi sfotteva la famiglia? Tutti questi sconti di pena. Oggi il ministro della giustizia ha dato i dati secondo i quali il 56% di chi esce di galera ci rientra. Ora, ragazzi, sta rieducazione delle carceri italiane: percentuale bassissima. Sconti di pena, permessi premio, semilibertà. Ti prendi 12 anni, bassissime. Stai in galera per 12 anni. Sono pochissimi. Sono pochissimi. Quelli che commettono reati durante la semilibertà sono pochissimi, dicono le statistiche. Anzi, secondo i dati del Ministero, più del 50% che esce rientra, e allora quantomeno sta in carcere fino all'ultimo giorno e lavori. E cancellare in alcuni casi la semilibertà non ci può essere. Per l'omicidio, non deve esistere la semilibertà. Secondo te uno come Pietro Masso, per esempio, che scrive addirittura lettere all'altro assassino, non dovrebbe più rivedere la luce del sole per quanto mi riguarda la persona libera. Non è che uno non può scrivere lettere, però ragazzi, vivete in quale paese? Vivete in Arabia Saudita nell'Europa? Uno che ammazza i genitori per fottergli soldi e che scrive un altro delinquente, ma ti capisco, ma stia scherzando. No, quello effettivamente è un po' troppo. Che esempi sono per i nostri figli? Ma è evidente che è una porcheria, ma volete impedire la scrittura? Ma non fa il film, fa il libro. Ma dai, stia scherzando. Cioè, andrebbe rimesso immediatamente in galera, secondo te? Sì. Subito, sì. Signor Pietro Masso. Sì. Signor Pietro... Sì. Effettivamente, il fatto che un signore come Pietro Masso scriva un altro assassino sembra piuttosto particolare, Parenzo. Sì, vabbè, no? D'accordo. Sembra abbastanza surreale. Cioè, Masso scrive, ti capisco se pensi che vuoi uccidere tuo padre. Ma non c'entra nulla col caso della povera Doina. Ti capisco Doina, quando ragazzi, pensi che volevi uccidere tuo padre. Cioè, non so se ti rendi conto. Cioè, ma infatti è un matto. Ma infatti è un pazzo. Oh, scusa, Ma l'altra io pure... vado a incontrare la gente di Latina. Aspetta, fermo un attimo. Voglio chiedere una cosa. La gente di Latina. Fare il comizio a Latina la piazza piena a Latina per Matteo Salvini ti sembra una roba Latina è un posto particolare è abbastanza particolare. Senti, ma questi qua che sono morti in mare, no? Secondo te, io la mia tesi è questa, ho sempre detto, mi hanno detto fascista eccetera eccetera, non i bambini ovviamente, gli adulti che portano anche i bambini in questi barconi eccetera, un po' sanno a cosa vanno incontro, un po' se la cercano, no? Un adulto che mette un bimbo su un barcone che ha ben poca speranza di arrivare a destinazione sicuramente mette a rischio la vita di quei bimbi. Vabbè, questo è come l'Egitto ha un governo, si allestiscano in Egitto dei campi di riconoscimento. Ma la gente ha più evidentemente la consapevolezza di poter morire in mare è superiore alla paura di vivere in un paese martoriato dalla guerra, e quindi la voglia di libertà è quella. Ma non capite veramente nulla proprio. È normale assistere a scene di questo genere? No, ma è normale che se un genitore addirittura affronta la paura del mare pur di scappare da un paese in guerra, ma andrebbe accolto a braccia aperte, andrebbe salvato in mare. No, prendiamo tutti, questo allora. È. Prendiamo ma non prendiamo tutti, ragazzi belli, ma di che parlate? Parenzo, non è più normale porsi il problema del perché questa gente scappa e da cosa scappa e andare là a risolvere i problemi. Ma questo d'accordo, ma questo ci mancherebbe altro, ovvio, L'Africa ovvio. In Italia non ci sta, Davide. L'Africa in Italia non scusa, ci ma sta. Un'ultima cosa, ma tu romperesti i rapporti con l'Egitto per la vicenda di Regeni o sono più forti i rapporti commerciali? Questo è buono. Se uno non ha rotto i rapporti con l'India dopo 4 anni di presa in giro sui Marò, capite che la credibilità italiana purtroppo... Vabbè, d'accordo, ma tu con l'Egitto che faresti? Siccome l'Egitto ci sta prendendo palesemente in giro. E dunque che faresti? Cioè, rompere i rapporti, richiamare perenemente l'ambasciatore, cioè bombardare il Cairo, che ma ne so? Che ne so? Un governo serio ha i modi per farsi valere, ci sono enormi rapporti commerciali fra Italia appunto, e Egitto. Ridiscutiamo questi rapporti commerciali, ridiscutiamo. Ma ripeto, lo si dovrebbe fare con l'India, lo si dovrebbe fare con la Turchia. Ti rendi conto che Renzi ha detto sia 6 miliardi alla Turchia, che quei soldi poi li no, più che altro c'è un comico tedesco che ha attaccato un po' Erdogan, ha fatto ironia su Erdogan. Ecco, io ci tengo a ricordare che il 24 aprile sarà l'anniversario del genocidio degli armeni. Vabbè, gli armeni non ce la faccio. Ciao. Eccoci qui di nuovo, Riccardo Roma, vai. Pronto? Chi è? Riccardo Veno? Ciao Riccardo, dimmi. Ciao, tutto bene? Tutto bene, dimmi che c'è, che vuoi di apparenza? Pagliaccio come sta? Il comico come sta? Sta va qua, bene? Sta comico. Dovrebbe essere un po' triste, visto quello che fanno i comici adesso, no? Prima il comico che ha detto, era Salvini stava a fare lo spot sulla ruspa, no? Ora uno può pure non essere d'accordo con Salvini, per carità, lo può votare, gli può fare schifo, lasciamo perdere. Ma Parenzo come commenta? Che paese siamo? Che paese? Il classico commento del comunista del merda che sputa sull'Italia. Sempre. Vabbè, siamo criticato. Merda. Prende sempre per il culo Grillo, no? Che è un altro merda anti-italiano, tipo Travaglio, Grillo, questa è merda e qua. E lui fa la stessa cosa, però. Perché poi dopo 5 secondi tu critichi giustamente la Merkel, giustamente, perché si sottomette a un dittatore come Erdogan, sì, facendo fare il processo a un comico, quindi violando qualunque base dell'Occidente, che è la libertà di espressione, e penso, però la Costituzione tedesca, è tutto bordellico, ma va in Germania, no? Va in Germania! Stai sempre a cagare il cazzo sull'Italia, a criticare ogni cazzata. Ah no, perché che paese, che scandalo, solo in Italia. Vai in Germania, vai, che a te, sai come ti accolgono in Germania? A te a braccia aperte proprio. Ah, in Germania è tutto perfetto, ci stanno i soldi per terra, la gente prendono tutti 10.000 euro al mese. Vai in Germania, Parenzo, vai. Parenzo, che fai? Stai zitto. Tornare. No, non parlo con questo qui. Perché non parli? Non perché è un maleducato bestemmiatore. No, gli parlo. Io sono maleducato. Tu sei un poveretto, non un maleducato. Tu sei un mistificatore. Ma io spero che qualcuno ti porti via tutto a te. L'altra volta ma io non parlo con te. Non ti do la soddisfazione. Cioè, non è un interlocutore per me, lei. Quindi. Finisca, parli pure, faccia quello che vuole, ma non mi interessa. Vabbè, però io quello devo dire, l'ho detto, basta, cioè posso anche riattaccare. Torna nella tua caverna. Hai votato ieri, Riccardo, o no? Ah, io nella caverna. Torna nella tua spelonca. Allucinante. Torna nella caverna. Torna sì. Nella tua caverna. Vai. Sì, torna pure. Fammi capire, no, ma tu dai a me del troglodita? Tu a me. È poco, è un'offesa ai trogloditi. È un'offesa ai trogloditi, diciamo. Appena non vorrei che i trogloditi si ribellassero. Chiama una persona con la quale non sei d'accordo, cominci ad attaccare la sorella. Vai. Lo dica a sua cugina. Vai. Amico mio, tu sei un stronzo, tu sei un cretino, tu sei un coglione. Torni, cioè, sei una cloaca vivente. Torni. Sei una cloaca vivente. L'ora di libertà è finita. Come sei in difficoltà, sbrocchi. No, non sono in difficoltà. Non parlo con i mentecatti più che altro. Sembri una checchia isterica. Non parlo con i mentecatti. E tu dai a me del troglodito. Prego, avanti. Ma perché non sbracci alla 7 quando avanti. Sta in video? avanti, quell'altro avanti. Scemo, tutti a fare i comunisti, avanti, no? Avanti. A comunista 1, lei che pensa? Ah, ma è d'accordo con comunista 2? Sentiamo comunista 3 dallo studio. È simpatico, tutto, è simpatico perché è un idiota. Ma adesso sentiamo, poi si mette a mano sul talmento, sembra un intellettuale. Ma adesso che hai avuto il tuo momento, ma tu quando torni a casa col tuo momento di gloria, che ti fanno? Perché tu ma quei quattro poveretti che frequenti nel tuo momento di gloria, che ti fanno? A grossi stamponi del giornalismo, ecco, sei la dimostrazione. Ma adesso che hai avuto il tuo momento di gloria, no, che però, ti fanno gli applausi uno, comunista 1 e comunista 2 non è male, però comunista ma uno quando comunista... Ma perché, tutti gli idioti dicono una cosa divertente, 8 e mezzo la trasmissione paletta, perché sono tutte così. Ma tu hai mai visto una trasmissione con un minimo di contraddittorio serio, vero? È strano che non invitino Riccardo da Roma, no? Strano che non invitino Riccardo da Roma, giusto? Strano, no? Strano che non lo invitino, però. Ma perché lo dovrebbero invitare? Ma appunto, perché dovrebbero, esatto. Ma mica non sono nessuno, mica sono come dei cani. Bravo, finalmente hai ammesso che non sei nessuno. Quindi tolti questi 5 minuti di notorietà che ti viene regalata. Quindi a me non mi inviteranno mai. Quello che lecchi tu lo sappiamo tutti e non ci fa anche schifo. Quello che lecchi tu lo sappiamo tutti e non vogliamo diffonderlo. Quindi torna pure nella tua spelonca. Torna pure nella tua spelonca. Ma perché hai dei problemi su quello che lecco io? No, ma beh, a me fa un po' schifo, francamente. Perché non ti va bene quello che lecco io? Beh, quello che lecchi tu è abbastanza vomitevole, però insomma. Che ne sai quello che lecco? Beh, lo sappiamo tutti, insomma, ti conoscono tutti a Roma. Lo sanno tutti. Lo sanno tutti che ambiente frequenti. Ma lo sanno tutti che ambiente frequenti a Roma e chi sei, quindi insomma, abbastanza. Chi lo conosce cambia strada, perché lo schifa, ma insomma, poco male. Fammi capire, ma tu l'hai controllato una a una? Noi accogliamo tutti, anche questo povero Riccardo da Roma, guarda. Accogliamo tutti. C'è spazio per tutti. Grazie, accogliamo Paolo tutti, Parenti. Anche questo poveretto, grazie, che ha bisogno Paolo di assistenza e di aiuto, che va è schifato bene, anche dalla sua famiglia dopo gli interventi alla radio. Si vergognano, hanno cambiato il campanello, siccome nel suo ambiente è conosciuto, hanno tolto dalla porta il cognome, perché la gente si vergogna, se no ancora adesso, ti assicuro, esagerare. A Roma lo conoscono tutti, la gente lo schifa, però evidentemente ma ancora non lui non si vergogna, ti assicuro che lo schifano tutti, Riccardo, posso ti schifano per strada, non tutti, penso tutti. A me mi schifano, ma nel suo piccolo ambientino, scusa, facciamo una prova, guarda, facciamo nel una suo prova, piccolo ambientino. Scendi sotto allo studio e mettiti a sorridere. No, sì. Scendi sotto allo studio e mettiti a sorridere, sì. Però dillo, sì, per radio che stai andando sotto allo studio. Sì. Vogliamo scommettere che entro 10 secondi qualcuno te va a fanculo e un altro te va a pista, sì, a faccia? Sì. Esatto. Guarda, questo sono sicuro, però lo devi dire per radio, devi dire. Sono e sicuro, poi sì, sono David Parenzo, sto scendendo sotto, sì, lo studio in questo momento. Boom, dice la pizza. Subito, cioè dopo 10 secondi gli dicono stronzo. E poi, sì, ma no, forse stanno a Milano, gli diranno pirla. Ma come hanno fatto? L'hanno lasciata completamente solo in famiglia ormai. Comunque, cioè si sono allontanati cosa, tutti. Allora, prima di chiudere volevo dire una cosa. Prima di ma chiudere, quella storia, sì, che lui c'ha il santino di Padre Pio, al posto del santino di Padre Pio c'è la foto sua nel campo rom, è vera? Beh sì, pare di sì, pare, sì, di sì, sì, pare di sì, Poletti, l'ha detto Poletti, inviato del TG4. Come là, battuta che... l'ha detto. Ok, allora guarda, facciamo, perché non fai tu una scommessa con Salvini, visto che Salvini è un troglodita e tu invece... sei un beato, ecco, non un santo per carità, no? Però sei un beato. Allora fai una scommessa, andate tu e Salvini nel campo rom, sì, tu e Salvini, facciamo una scommessa, allora vediamo chi prende più insulti. Beh, allora, sicuramente Salvini, Salvini al 100%. Ma tu sei sicuro? Ma sì, sicuro. Ma tu sei sicuro di questo? Ma sì, i Romolo, come hanno fatto quei circensi con me? Per preparare queste cose lui ci pensa anche, cioè la cosa drammatica è che lui per dire queste quattro stupidaggini che ha detto lui ci pensa, capito? Cioè non è che gli vengono così. No, lui proprio è lì, dico di getto. Pensa, dice, oggi è lunedì, sono due settimane che non chiamo a Radio 24. Chiama la moglie, dice alla moglie, no, la moglie dice, no, anche oggi chiami, ti prego. No, ha provato a togliergli il telefonino, non c'è riuscita, perché il matto è scappato di casa e ha comprato un altro telefonino da un migrante. Ma perché lo devi attaccare sul piano personale? Ma perché lo senti dalla voce che è un povero instabile, poverino. A me dispiace anche fare ascolto con l'instabile, però va bene. Va bene, Riccardo, ciao. Pronto? Ciao Riccardo, ciao. Allora ragazzi, abbiamo scoperto che c'è un altro comune, Parenzo, che si chiama Acerra, dove c'è un sindaco che si chiama Lettieri, come il candidato Napoli. A Napoli del centrodestra. Questo non so manco che cos'è, questo Lettieri, probabilmente sempre di centrodestra, forse no, non mi ricordo bene che cos'è. Io lo chiamerei perché ho qui sotto il numero di cellulare per un motivo molto semplice, perché mi sa che è dalla tua parte, cioè vuole mettere una multa, la solita multa, 500 euro sì, per chi va a prostitute. Pare giusto, che ci sia una alcune strade di Acerra che sono piene di prostitute con traffico, pare problemi, poi non si capisce che problemi possano dare queste prostitute per strada, sì, forse i clienti che si avvicinano. Comunque questo sindaco vuole mettere 500 euro e naturalmente recapitare a casa, tic, la multa. Pronto? Sindaco, buonasera. Chi è? Mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, salve. Sì, buonasera, mi dica tutto. Come sta, caro sindaco? Come andiamo? Tutto bene. Cioè, il sindaco di Acerra importa multare i clienti delle puttane. Molto bene, bravo. Sindaco, bravo. Come mai le è venuta questa idea? Non è che io ho proprio questo interesse a multare, voglio dire, io ho interesse che si elimini questo fenomeno, non è che il amico mio però non è quello che di multare, è quello che pareva di dissuadere questo atto criminale. Sì. Sì, okay. Atto criminale quale sarebbe? Scusi, è l'atto criminale andare a puttane? Io che sono criminale, ogni tanto sono andato a puttane pure io che sono criminale. Sì. Se lei, alimè, con la sua, diciamo, pagando queste signore, alimenta il giro della prostituzione, è un criminale. No, no, mi scusi, caro sindaco, in Italia ci sono non so quante milioni di persone male, che vanno a prostitute. Criminali. Che vanno a prostitute. Allora, dobbiamo dire che ci sono milioni e milioni di criminali, credo che siano 9 milioni, una cosa del genere. Sono tutti criminali? Io non lo so quanti milioni sono, perché di mattina non ho tempo di contarli. Però tutti coloro che con i loro soldi alimentano il giro della prostituzione, che molte volte è in mano alla criminalità organizzata, con questa consapevolezza sono criminali anche loro. Dunque sono dei miserabili, come dice Parenzo. Sì, assolutamente sì. C'è gente che per esempio ha bisogno, c'è gente che semplicemente si vuole sfogare, gente che non riesce a sopportare l'idea di stare senza sesso, gente brutta magari, persone brutte. Brutte persone. Che non, no, brutte no, persone. No, no, brutte persone perché persone vanno brutte, a sfruttare persone sfruttate. Però persone vanno a sfruttare persone sfruttate. Chiudiamo qui, grazie sindaco, arrivederci. No, no, no, sindaco. No, no, no, stavo scherzando, scusi, dicevo chiudiamo nel senso chiudiamo. Ma sei un coglione, sei un cretino. Richiama un attimo. Ma vai a fare il culo, va. Ma dico, ma sei matto, attacchi così. Cioè, ma è un modo di dire chiudiamo. Ma qui, ho capito, dire, quello non sentiva bene. Discorso finito, come dire, discorso finito, arrivederci e grazie. Dai, una su, cosa meravigliosa. Dai. Però sai che cosa possiamo fare? Chiudiamo adesso, qua, aspetta, aspetta, adesso io lo sai che cosa voglio fare? Voglio chiamare gli uffici del comune di Acerra, perché sono voglio capire. A no, ma no, ma no, ma voglio capire fino a che punto, fino a che punto, fino a che punto va, vogliono multare le persone. Cioè, voglio fare finta di essere uno multato. Uno multato. Vediamo come reagiscono. Vediamo. Pronto? Sì, buonasera. Cercavo il sindaco, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono un cittadino, mi chiamo Giovanni. Giovanni come? Giovanni Diorio. Un attimo. Sì, grazie. Pronto? Sì. Ditemi. Salve, cercavo il sindaco. Lei è? Mi chiamo Giovanni, sono un cittadino. Non è che aveva qualche appuntamento con lui? No, non penso. No, non c'è, no, no, no, è urgente, è urgente. Sì, ma il sindaco al momento non è che sta qua. Quindi se lei vuole fissare un appuntamento mi dai i suoi dati. No, ma io ho dei problemi gravi. Lo sa che è successo? Posso dire a lei? Glielo posso dire? Vabbè, non so se dica. Magari prende appunti, glielo dà, glielo dice. Io credo che mi abbiano fatto la fotografia, capito? Della targa, della macchina. Ah. La targa della macchina. Come faccio poi? Se arriva la multa a casa, come faccio? Lei ha capito di che parlo? Sì, ho capito. Dell'ultima ordinanza. Capito. Io ieri sera ero. Che devo fare? Lo so. Lo so che si sfasciano le famiglie. Lo so, sono quello che sono. Sono un puttaniere, guardi. Non, come devo dire? Io sono. Un attimo solo, aspettate un attimo, vediamo un attimo. Un attimo solo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera, salve. Collega della signora dell'ufficio di segreteria del sindaco. Ditemi tutto. Buonasera. La macchina, la targa, la foto. Che devo fare? Sono disperato. Vabbè, un attimo, state un attimo calmo innanzitutto. Lo so, però lei sa, io ho sto vizio, che devo fare? Senta, allora aspetti un attimo, io non, in questo momento, non, che... ma lei è sicuro del... sì, ieri sera ero là. Se mi arriva la multa a casa, io come faccio? Sono rovinato. Allora mi... Rovinato. Facciamo una cosa, aspetti un attimo, sto pensando una cosa. Contattiamo un attimo, lei, non le chiedo il numero di telefono perché non le... ci contatti fra... anche fra 24 ore, domani a quest'ora. Ma si può togliere questa cosa? No, allora, guarda, forse togliere no, ma noi gliela facciamo arrivare a casa, la viene a pagare in comando. Ah, ecco. Guardi, io non lo so, sto provando, mi è venuto in mente, mo questa idea ci provo, perché non sicura toglierla no. Perché ho capito che è proprio quella la cosa, farla arrivare a casa, capito? Allora, ma secondo lei è giusta questa cosa? È giusta o no? Senti, secondo me è giusto perché l'ha fatta il sindaco, quindi io non posso che condividere. Però ho capito, ma se uno c'ha il vizio, io c'ho il vizio, che devo fare? Sono un po'... No. Allora, ci chiami esattamente domani a quest'ora, noi le diamo la risposta. Non le dico, mi dia il numero di telefono perché non mi permetto, però se ci chiama a quest'ora, chiede di Mario. Io cerco di darle un'informazione in più se può pagarla in comando vigili, va bene? Come faccio? Io sono rovinato, la famiglia. Guardi, proviamo questa soluzione, non si preoccupi, perché se c'è questa soluzione ci proviamo. Lei mi capisce, vabbè? Lei mi capisce però, no? Sì, non si preoccupi. No, mi capisce nel senso questo vizio. Vuol dire quando è accaduta questa cosa? Ieri sera intorno alle 21 forse. 21. Guardi, mi dia solo questa possibilità, la viene a pagare. Provo così, non so dirle altro in questo momento. Lei è molto buono, non mi capisce da uomo, mi capisce, no? Non si preoccupi, non si preoccupi. Grazie, arrivederci. Scusa, ma se le multe non arrivano a casa, a che servono allora? Cioè, no, però evidentemente bravissimo questo funzionario, si è reso conto della disperazione di quest'uomo e gli fa pagare la multa, ma cerca di non farlo umiliare. Cioè, di fronte a una telefonata come questa si è comparato in modo straordinario. Un plauso ai dipendenti pubblici in questo caso, no, assolutamente. Però scusami, se la all'umanità multa, del dipendente se la multa pubblico non funzionario se la multa non arriva a casa. No, ho capito. Io sono a favore del provvedimento. Uno si mette a piagne e quello intanto dice no, forse sarà dissuasivo. Vedrai che dalla prossima volta la gente penserà due volte. Si sposta la prostituzione al comune accanto dove non c'è l'ordinanza. Fa lo stesso provvedimento, poi lo fa anche quell'altro, lo fa pure quell'altro, andate tutti in Svizzera e così non c'è più lo sfruttamento. Ma e ve ne andate lì forza, a fare su le vostre porcilaie con le persone sfruttate. Condonato da Varese, sindaco di Roma, basta clandestini, basta casa accoglienza, tutti fuori dai coglioni, basta marocchini, basta rumeni, basta delinquenti, basta lavavetri, Donato, candidati a sindaco di Roma, forza Donato da Varese, a noi! Ma questo è matto, ah no. Beh, lo scopri adesso. Lo scopri adesso, voglio dire. Giulio, provincia di Varese, vai, Giulio. Cruciani, dimmi. Il Papa si è dimostrato essere quello che è sempre stato, uno scafista. Il cioè? Papa è uno scafista e ecco io voglio denunciarlo per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Sì, assolutamente. No, ma strano, perché ci sono dei buoni ospedali a Varese in genere, quindi è una situazione particolare, perché Varese ha un bel sistema sanitario degli stessi sì, in Lombardia. Sì, allora dici... Però, no, evidentemente è sfuggito al controllo dei medici e dei sanitari. Pronto, prego, vado pure avanti. Sì. Ci dica qualcosa in più. Che usa il telefono per farsi la barba, è matto. Il Papa è il capo di Stato di un paese straniero, il Vaticano. Questo è vero. Lui questo è andato a prendere 12 mila. Sì. Pronto? No, prego. Prego, Giulio. Allora, ma l'hanno già ripreso. Ma non riusciva. L'hanno riportato in corsia. Non riusciva a maneggiare bene il cellulare. Ma no, usa il cellulare per farsi la barba, dai, è un matto. Antonello, Milano, vai, Antonello. Volevo porre una questione a Parenzo che... Col massimo rispetto parlando, per lui dice che vuole e dà il 2 per 1000 a all'associazione di immigrati. Ma no, io associazioni sono che si occupano di aiutare gli immigranti. Benissimo, benissimo. Mi anzi, va bene, richiedenti mi asilo. Va bene. Io sono un papà dove la figlia ha dovuto emigrare dopo la laurea per trovare lavoro. Sì, sì, sì. E sono due cose diverse, facciamo... però gli immigrati che arrivano e le persone che vanno a trovare lavoro. Non è una rifugiata, no? No, grazie a Dio, no. grazie a bene. Papà che ha lavorato 50 anni. Certo, no? però dico una cosa, non possiamo istituire un 2 per 1000 per tutti quei ragazzi italiani a posto che dare una mano a tutti. Diamo una mano prima, per carità, non c'è dubbio, infatti ci sono le borse di studio, ci sono vanno potenziate. Quanto non mi è piaciuto, mi spiace dirglielo Parenzo, quando lei ha criticato il prefetto che ha espulso le due persone. No, io ho detto che ha fatto benissimo il prefetto. Se tu protesti perché non vuoi essere accolto in un posto dove il cellulare non prende, beh, amico mio, te ne devi andare. La mia figliola è là, è dovuto sottostare a quelle leggi così, e che pure avendogli dato una mano, devi sottostare, perché tu sei in un altro paese. Non e dico dubbio. Anche una cosa, che a giugno, quando ci sarà la Brexit, secondo me gli inglesi escono fuori. Vabbè, quello è un altro discorso, che c'entra adesso quello? C'entra. Vabbè, Antonello, perché... ho capito, ciao. Allora, grande ritorno alla Zanzara, con noi Lori del Santo. Lori, come stai? Siete carichi? Siamo molto carichi, Devi sapere, signora Lori del Santo ha 57 anni. Ma può dire questa cosa, che se li porta alla grandissima? Beh, certo. 57. E sta con uno di 23. Cioè, la differenza. No, 24, 20... non esageriamo. Perdonaci. Allora, 57 e 23, la differenza mi sembra che sì, siamo. Ma non da un giorno, da 3 anni. Da 3 anni, sì, lo so, ma perché? Una relazione seria, mica una relazione così. Serissima. 24 anni, ma serissima, nel senso che tu sei stata fedele in tutti questi 3 anni? Certo. Ma come fai a essere fedele? Ma perché amica? Veramente. Insegnami i segreti della monogamia. Beh. È vero, guarda, anch'io pensavo una volta di buttare sempre lo sguardo, però arriva un momento dove ovunque lo butti vedi meno bello, e allora... Però ogni tanto ci sono gli stimoli, no? No, perché se trovi quella persona che proprio il suo massimo è quello, perché non fa nient'altro, Ma spiegami una cosa, 24 anni, 57, dunque sono 34 anni di differenza, 33 anni di differenza. Potrebbe essere la madre, no? Sì, infatti il figlio ha la stessa età, se non sbaglio, no? Giusto? O sbaglio? Sì, ma questi conti non contano, cioè... Non conta niente, hai ragione. Quello che conta è l'apparenza. È la testa. Io modestamente esco e lascio una scia di cose, insomma, mi seguono. Cioè, quindi senso, voglio scusa, dire, dipende da come uno si mantiene, da quanto potere ha, quanto carisma. Sì, no, ma io infatti... Dice tutto vero. No, infatti... Dico semplicemente che se fosse il contrario... Nel suo caso è straordinario, signora del Santo. Ma se fosse il contrario, cioè uomo 57... Verrebbe considerato un porco, tu dici? No, un porco sì, però voglio dire... Io una constatazione banale che faccio. Ma no, io ho visto anche che la moglie lì del presidente, non so di quale paese, Brasile, cioè c'ha 34 anni di differenza ed è fantastico. Cioè voglio dire, oramai bisogna... I corpi sono cose casuali che si uniscono, quello che si deve unire è la mente. No, no, ma su questo è bella questa cosa, i corpi sono un dettaglio in fin dei conti, no? Sono pezzi di carne. Beh, certo, è così. Cioè, l'importanza sono le teste. Io voglio capire una cosa, ma ho letto che tu hai fatto un'affermazione un po' curiosa, che forse è stata interpretata in un certo modo. Cioè, in realtà, siccome all'età di tuo figlio, girate spesso insieme, no? Giusto? Sì. Tu, tuo figlio e il tuo ragazzo, che sono coetanei. Beh, sì, ma poi ho un altro figlio che ce l'ha 16 anni ed è alto 1,93 e devo dire. Che è più alto di tutti e due questi. Cioè, per cui praticamente si scambiano i ruoli, insomma, dal punto di vista. Nessuno riesce a capire. Cioè, lo prendono per non tuo si figlio. Non capisce niente. Devo dire sì, spessissimo, perché lo scambiano non perché è giovane, perché proprio ci assomiglia, lo scambiano. Cioè, il tuo fidanzato dice lo scambiano. È lo stesso colore di capelli, lo stesso. Vabbè, un caso. Ma ti piace questa cosa qua? Il fatto che un po' abbia la stessa età di tuo figlio? Un po' ti eccita? Io sono un'ordinata. Mi mi piace tutti i colori sì. a posto, il beige con il beige, il nero con il nero. Uno deve melangiare anche queste cose nella vita, cioè quando la borsa abbinata, la scarpa, gli accessori, quindi esce con degli uomini che sì. stanno bene insieme. Sì, ma è vero che questa cosa, il fatto che abbia la stessa età di tuo figlio, un po' ti eccita mentalmente? No, non c'è niente di male. Il problema è che io forse ho un problema io nella testa, che mi sento così giovane che non riesco a capire cosa vuol dire essere vecchi. E ancora dico anzi sembro veramente più giovane io, perché c'ho un entusiasmo fatale. Sì. Forse sbaglio in questo, però adesso ogni giorno mi guardo le mani, mi sembra di essere Dorian Gray che si è spaccato lo specchio, cioè. Quindi ringiovanisce ogni giorno. No, lei. Al contrario. No, invecchia. No, ma questa cosa che abbia l'età di tuo figlio un po' ti eccita o no? Cioè, mi conforta l'idea che sono un'esteta e la bellezza mi circonda, e quindi questa cosa sì, mi rende molto felice. Ti rende felice. Mi dà una grossa carica. Senti, ma sessualmente andate molto d'accordo? Cioè, una roba, sì, una frequenza quotidiana praticamente? Vabbè, o no? Lui è inarrestabile, però io... Inarrestabile, addirittura, inarrestabile. Io sto stanca. Lo so, hai ragione. Devo ammetterlo. Ma lei tutto il giorno cosa fa, signora Del Santo? Io lavoro, devo procurare il cibo a tutta questa gente. Ah, perché mantiene lei questa tribù di maschi? Sì, certo. Meraviglioso. Cosa meravigliosa. È certo, ma è normale. Ma quelli stanno a casa e lei mantiene tutta la tribù. Cioè lui qualcuno anche studia, però so già che studia per niente, perché quando mai uno studia gli serve a qualcosa? Nulla. È un bel insegnamento da dare, giusto anche questo. Serve a niente. Alla radio da Confindustria. No, ma è giusto, c'è anche la Luis all'università della nostra. Sì, no, ma è giusto, lo dica pure a voce alta. Ma ha ragione lei. Ma cosa studia? Una fare meglio prostituirsi? Cioè il messaggio da dare questo. No, lo studio serve fino a un certo punto. Fino ma a un certo poi punto, se la passione certo. non prende il sopravvento, che cosa studi a fare? Ma cioè, cosa significa studiare perché ti viene imposto? No, devi andare all'università. Ma se non ti viene da dentro la voglia, dentro, ma perché devo spendere i soldi? Ma scusa, se tuo figlio ti dicesse voglio fare il, che ne so, il toy boy e guadagno 5.000-10.000 euro al mese, che gli diresti tu? Sì, vai alla io gli direi fai la tua strada, però non mi fa spendere barcate di denaro per mandarti all'università, se poi invece ci metti 10 anni fare quello che potresti questo è giusto, però se per esempio... voglio dire, bisogna riconoscere i propri limiti e se anche non usare portato allo studio, esatto. Ma perché ti devi incaponire? E anche usare il proprio, e anche se del caso usare il proprio corpo, cioè per guardare... uno può usare quello che vuole, l'importante che vuole, cioè... è che sia eticamente accettabile. Beh, eticamente sai, è una parola un po' beh, così sì, bizzarra. Ognuno del proprio corpo faccio... l'importante è non far del male agli altri, no. Ma semmai far del bene, diciamo, essere generosi. Ah, questo sì, certo. Certamente, come per esempio succede nel campo della prostituzione, cioè diciamo... Beh, insomma, uno tutta la vita è una prostituzione, sì, il lavoro insomma, che uno fa, stare con gente che non ama, è una continua... Dici che male c'è vendere il proprio corpo per soldi? Io non ci trovo niente di male, per esempio. L'importante è raggiungere la libertà, se questo permette di essere liberi, la libertà deve essere, dopo la salute, la cosa più importante. A te, per esempio, quanto ti hanno offerto qualche volta? Hai fatto la prostituta di alto bordo, cioè qualcuno ti ha offerto... Sai che a volte ci penso, io non ci sono mai riuscita, a volte dico ma perché io facevo la brava ragazza, quella che ragazza, lo fa se lo fa per niente, capito? Non è che sei stata con morti di fame, diciamo. No, però di non ho mai chiesto niente, invece so che ci sono meccanismi diversi, ma se io non sono capace di mentire non ce la faccio. Cioè, no, certo. Cioè io ho visto montagne di denaro, sai quando gli uomini... Chi ti ha offerto un sacco di soldi, per esempio? Tasche, no, sai, arrivano a dormire, tirano fuori perché non hanno il borsello, no? Sì, allora sì. Hanno tutte queste montagne di soldi. Beh, che esce, gente, e li mettono lì sul comodino, tolgono l'orologio e lo cacciano lì, e tu di notte vedi che loro ronfano, potresti prendere e sparire, no? Tutta per esempio con chi ti è successo? Uno che proprio potevi rubargli un sacco di soldi, fammi ma un nome. Tanti fanno così, però voglio dire anche negli hotel, no? E non ci sono mai riuscito, perché poi ho detto, poi scatta magari la vendetta, no? Non sai mai con chi ha a che fare. Certo. Io odio la sensazione di chi vuole vendicarsi, cioè potrebbe raggiungerti ovunque, io voglio vivere non in c'è pace. Dubbio. Senti, ma com'è? Povera, ma senza questo problema. Adesso non è che sei povera, qualcuno qualche lascito te l'ha dato, insomma, qualche soldo te lo dà. Ma gli uomini a me sinceramente... No, niente. Senti, alla fine li ho fatti io ricchi, perché sono un genietto, tutto qua. E poi questi qua li mantieni, invece questi... No, perché io... in particolare c'è uno con cui è stata, no? Che è particolarmente... Signor Cassoggi, dice il signor Cassoggi. Ma no, anche un altro mi pare particolarmente importante. Vabbè, però lei dice che non ha di questi qua non ci sono praticamente, non è che hai preso soldi, no? O no? No, io ma neanche sposato. Alcuni. Vabbè, però vivevi bene, questo qua ti ha dato un po' di soldoni. Una volta se ti sposavi ti sistemavi. Adesso questo no. È un dato di fatto. Ti sposavi, dopo un po' divorziavi. Ma Cassoggi un regalo te l'ha fatto, un regalo grosso, sì, pesante? No, vabbè, per carità. Allora. Ma mica glielo ho chiesto, era no, il per suo carità. Modo di essere. Senti Lori, ma io non ho capito la storia con Donald Trump, no? Tu hai raccontato che praticamente l'hai incrociato in un ascensore quando abitavi alle Trump Tower, poi a un certo punto vi siete scambiati i telefoni, se non sbaglio, no? Sì, lui mi ha chiamato. Ti ha chiamato, ti è venuto a trovare a casa? No, a casa, anche. Ero in un altro posto, non a casa lì al Trump Tower. No, in un altro posto, sì. Mi ha chiamato, vengo, e io ho detto, vabbè, però se vieni ora non è il momento, cioè volevo posticipare, lui è venuto ugualmente. Ma voleva trombare il signor Trump? Secondo me sperava che fossi in una situazione, però c'era gente, questi operai tutti pieni di polvere, non avete fatto niente. Forse voleva salire per vedere, no, sondare, ma... Ma non avete fatto niente. Purtroppo no. Un bacio. Perché purtroppo? Perché tutto sommato lui è veramente affascinante, anche se un po', insomma, cioè secondo me il collo un po' corto, no? Beh, non è quello il suo problema, però mi pare. Però non è basso, quindi c'ha un suo fascino. Una cosa di bestialità ce l'ha. Come è anche bravo nel business, cioè bisogna riconoscere la genialità. Beh, sì, tanti sono bravi nel business, però voglio dire, c'è gente triste, tipo ti ricordi Cuccia, quella gente di Gobba che andava a lavorare come Dracula? È uno dei più grandi banchieri italiani, è stato. Sì, appunto, ma che noia, ma che schifo. Ma che noia, non è che tu ti lo fai per forza. Dovresti rimetti tutti i soldi. Abbiamo ammazzato anche Sio Cuccia. No, ma dico con tutto il rispetto, signora del Santo, dico con tutto il rispetto, non è che tutti fanno il drive-in. Signor Cuccia ha fondato qualcosa in questo paese. Ma lui era noioso. Ma che c'entra noioso? Ma deve fare il comico, deve fare il banchiere quello. Ma mi manda i matti, signora del Santo. Guarda che incredibile. Scusa, però se uno ha i soldi, se li fa, è meglio anche se li goda. Ma era riservato. Scusi, non andava in giro con l'uccellino di fuori, signor Cuccia. Ma che deve fare? Io andava in banca. Io abitavo una volta a San Babila. Scusi, aspetti. La signora del Santo, signora Cuccia, ma non ho capito. Ma con questo Trump, manco un bacio in bocca vi siete dati? Beh, diciamo un sai quando ti saluti, una lingua, una lingua, quel contatto un attimino un po' più caliente, ma una lingua c'è stata, si può definire? No, perché purtroppo non c'era l'occasione, mi sono caliente che ha fatto un bacio in bocca con le labbra, che è successo? No, una toccatina, sai, no, comunque quando sei effervescente tutto il tuo corpo un po' trema, te eri eccitata un po' con Trump. No, diciamo che ero un po'... Io mi intimidisco quando vedo uno ricco. Non riesco più a essere me stessa. Eh beh, perché la... Mi blocca, mi sento inferiore. Ti senti inferiore. Vabbè, ragazzi, dovrei parlare di tante altre cose, ma dobbiamo chiudere. Ti do un bacio, Lori, e ci sentiamo prossimamente. Ti richiamo. Ciao, cara. Allora, chiudiamo così, caro Parenzo. Che dobbiamo fare qua? Massimiliano da Napoli, chiudo. Matteo, Domenico, Marco. A domani. Sta gentaglia, chi se ne frega. Cruciani, ma va succa!